Allora, il titolo, almeno di questa prima edizione, è Miracolo Berlusconi. Il centrodestra ferma la sinistra, Grillo vola e smacchia Bersani, gli italiani arrestano Ingroia Di Pietro, giustizialisti fuori dal Parlamento, Monti tramvata tecnica. E a noi piace sempre questo dire e non dire, queste allusioni così sfumate. Casini crolla, fine sfrattato, non entra Montecitorio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Silvio forever sarà Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi. La numero uno, signore e signori, amici, conoscenti, nemici della zanzara, è questa, una signora umbra che si chiama Silvia Gervasi, davanti al Tribunale di Milano. È diventata da oggi il mio idolo assoluto, idolo totale, caro Parenzo. Ovviamente non avrei avuto il tempo di compulsare, di ascoltarla via internet. È diventato il mio numero uno, Silvia Gervasi. Ho visto tutto. Il contesto dell'Italia comunque ha votato Berlusconi, ha capito? Non siamo delle moschette così, siamo tanti. Qui sono venuta per questo sano principio. Comunque lo facciano fare quello che deve fare come Angiolino, no? Che questa è una persecuzione. E il Napolitano non fa un cazzo. Hai capito? Non fa un cazzo, eh? Ho visto tutto. Napolitano non fa un cazzo. Senti ancora, senti. Nobile e giusto tu ci piaci. Lei l'ha conosciuto personalmente, Berlusconi? Sì, noi abbiamo conosciuto perché abbiamo fondato i club di Forza Italia in Umbria. Ci siamo dati da fare, è una persona in gamba, brillante. E se le ragazzine vogliono fare le mignotte a 13 anni, allora sono le mamme che non le educano bene, no Berlusconi. Forever sarà un popolo di libertà, la musica va, un unico canto. Il fatto che è andato con una minorenne, a parte che è tutto da dimostrare. E poi, come ripeto, Pasolini pure andava a letto con le minorenni, però se erano di sinistra mica si attacca, solo la destra si attacca. L'hanno fatto fuori, insomma. Hanno fatto bene. Il leader che sa. Hanno fatto bene a far fuori Pasolini. Ma infatti questa qui, c'era, hai sentito che sottofondo l'ambulanza, non era della zanzara, ma gliel'hanno mandata lì. C'era anche la madre, senti, c'era anche la madre. Anche la madre, che bella famiglia. E vabbè, ho capito, perché uno non può fare il tifo per Berlusconi, c'è tanta gente che fa il tifo per la sinistra, uno non può fare il tifo per Berlusconi e non può presentarsi davanti al Tribunale di Milano. Ma esiste la decenza delle cose che si dicono? Se un demente di sinistra dicesse a difesa della sinistra cose impossibili come questo, le darei del demente. Beh, sentiamo anche la madre, su. Vengo da Perugia. Quindi è partita dall'Umbria per sì, venire. Questa notte sono venuta a dimostrare perché io piango, perché soffro tanto di tutta questa cattiveria che fanno. Cosa pensa? Cosa pensa? Perché succede? Perché succede? Perché sono invidiosi, perché se lui stava col PD non succedeva. Futuro e presente. E poi si è messa a piangere tra le braccia dell'ex presidente del Senato Schifani, anzi dell'attuale presidente, perché è ancora presidente. Ma che ridi? Ma cosa ridi? Cosa ridi? Il sogno riparte. Sempre lui. No, siamo tutti con lui. Aiutati. Siamo tutti con lui. Mi porti baci, lo farò, lo farò. Bravo. Troppo bravo, troppo invidiato. Invidiato! Ma scusami, anche Schifani era ovviamente basito perché nessuno lo ha mai trattato così. Vabbè, però qui scoppia il caso finanziamento pubblico del Partito Democratico. Ma siete d'accordo, no, che anche Schifani era imbarazzato? Vabbè, ma là c'è tempo, aspetta, abbiamo già un ospite. Non gli ha mai fatto neanche una carezza a Schifani, quindi è evidente che la signora ha messo in imbarazzo. La genialità. Siamo arrivati al punto cruciale. Il Partito Democratico ha una sola possibilità per cercare di mettersi d'accordo con Grillo, cioè scomparire, perché se dice no al finanziamento pubblico, anche a quest'ultimo finanziamento pubblico, a quest'ultima tranche di finanziamento pubblico che fra poco riceverà, è fottuto, lo disse pochi mesi fa anche l'ex tesoriere, anzi l'attuale tesoriere Misiani. Chiudiamo bottega senza finanziamento pubblico. E Renzi fa già le pulci, alcuni lo chiamano dossieraggio, 180 dipendenti, forse di più. Abbiamo i nomi, alle 19.15 vediamo qualche nome con qualche cifra, eh. Abbiamo le cartuccelle qui, Parezzo. Le cartuccelle abbiamo. Ma dov'è infatti? Cioè, dov'è la novità che ci sono, no, i dipendenti? No, no, ma aspetta, nomi, cognomi, cifre, stipendi, controstipendi. Ma cioè, hai risaputo, sono Renzi e finanziamento pubblico, alla Grillo, senti. Se Bersani, oltre che a mettere gli 8 punti, ci aggiunge anche che aboliamo il finanziamento pubblico ai partiti, come noi dicevamo fin dai tempi delle primarie, cioè, ma fa un atto di demagogia, no, fa un atto di serietà. Silvio Realtà, Silvio per sempre. Beh, con altri toni, sembra Grillo in campagna elettorale, sentiamo. Ma qual è la nostra già diversità che abbiamo dimostrato? Che noi rimborsi ci toccavano 1.700.000 euro, 1,7, e ci facevano comodo. Come ci facevano? Guardali un po' come sono ridotti, ma guardali! Non facevano comodo questi soldi. Li abbiamo rifiutati, li abbiamo lasciati lì. Non vogliamo partecipare al ladrocinio. L'abbiamo dimostrato. E scrive una lettera a Bersani che Bersani dovrebbe firmare, appunto, per rinunciare anche a questi contributi elettorali. È allucinante, lo sai? Ma che allucinante, è giustissimo rinunciare ai contributi elettorali, via! Spazzare via il finanziamento pubblico, spazzare via! Un partito vive di democrazia interna! Vabbè, ma tu sei d'accordo col finanziamento pubblico, l'abbiamo capito, ma d'altra parte non mi stupisce la cosa, Ma scusami! Non mi stupisce la cosa, non mi stupisce! Un partito vive di regole interne, democrazia, sì, è di proprietà interne. Di Casaleggio e Grillo, ti credo che non ha bisogno. Senti, di Senti, basta con questa buffonata che la politica si può fare solo col finanziamento pubblico, altrimenti entrano i miliardari, basta, no, con questa buffonata! Si riducano i costi, ovviamente, ma non è che devono smantellare gli apparati, perché l'ha detto quel buffone di comico, si riducano con quell'altro i costi, con quei capelli che sembra Branduardi. 800 24 0024, è con noi Daniela Santanchè, deputato del PDL, buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Come è andato il golpe? Quello che ha fatto la procura di Milano, mi sta chiedendo, Parenzo? No, quello che avete fatto voi invadendo un'aula di tribunale. Quando andate a invadere la Corte Costituzionale? Noi non abbiamo fatto nessuna invasione. Vergogna. Siamo dei cittadini, il Tribunale di Milano si può frequentare, poteva venire anche lei. Siamo sempre rispettosi delle istituzioni, ma io sono personalmente contraria, sì, a dare rispetto a chi non lo dà. Ma quella mi folla inferocita, oggi... se avesse incontrato la Boccassini, cosa avrebbe fatto quella folla inferocita che sembrava di stare alla chi rivoluzione parla, francese? Scusi, di quell'ingroia con la gonna? La Boccassini, sì, la Boccassini. Sì. Ma cioè, se lei l'avesse incontrata, che cosa avrebbe fatto? Siccome io sono una persona educata, non avrei fatto assolutamente niente, però mi sarebbe piaciuto incontrare il suo sguardo, forse avrebbe dovuto abbassarlo. Perché? Perché la procura di Milano stanno succedendo delle cose inaudite che sì, stanno mettendo a rischio la democrazia del nostro paese. Addirittura. Beh, scusi, stiamo ai fatti, ma non alle parole. Stiamo ai fatti. Oggi che cosa è successo? Sì, che è successo? Boh, ne succedono di nuovo tanti. Una visita fiscale. Vabbè, tanto è stata respinta. Scusi, è stata respinta. Scusi un attimo. Allora, il presidente Berlusconi non è a casa nel suo letto, sì, e non è curato da un medico amico. Mm. Il presidente Beh, Berlusconi sta al San Raffaele, sì, con primari di chiara fama, sì, che hanno accertato le sue condizioni di salute. Vabbè, i medici sono amici, però uno almeno è molto amico suo. Non è che non sono amici i medici. Ma che c'entra? Santanchè. Ma scusi, se avete qualche dubbio denunciate. No, ma non abbiamo nessun dubbio, io non ma ho nessun dubbio. Ma perché deve fare una difesa di ufficio di un procedimento, no, scusi, giudiziario? Prima di tutto questa cosa qua. La questione di Napoli, sì, vabbè, quello che c'è... Berlusconi aveva dato la sua disponibilità, sì, il 15 o quando volevano loro... Vabbè, quindi vogliono fare il giudizio immediato, vabbè. Ma che c'è? Scusi, ma siccome in questo paese, io capisco che non tutti abbiano la casacca della nazionale... Ma se uno è innocente... E continuiamo a metterci subito, no? La casacca della nostra squadra... Ma ci vogliamo rendere conto che due famiglie su tre non arrivano a fine mese? Ma i giudici ci che gliene frega? No! Ma i giudici che gliene frega, i giudici, scusi, di questo? Ma i giudici che gliene frega, perché i giudici non sono italiani. Beh, che dovrebbero dice, pensare all'economia, i giudici. Mi deve spiegare tutta questa fretta. Come fretta? Con una giustizia in Italia che è la più dice, lenta che c'è. Lei dice che c'è un accerchiamento, c'è una sorta di... Per fare cosa? Per arrivare a una condanna? Per arrivare ma subito... Non lo dico. Io, all'incandidabilità. L'ingroia di turno, siccome ribadiamo il concetto che uno su tre degli italiani, sì, ha votato Silvio Berlusconi, il popolo della libertà, sì, Quali sono i loro mezzi? La storia è antica, 1994, governo Berlusconi, vi ricordate? Avviso di garanzia. Ma però potrebbe anche governo, ho capito, però potrebbe essere Berlusconi fu assolto, sì, con formula però piena. Scusi, signora Santa, che può darsi anche che ci siano delle cose che vengono a maturazione adesso, cioè la vicenda di Napoli perché ha confessato De Gregorio, o comunque insomma accusa Berlusconi. Ma scusi, a parte che c'è l'articolo 67 della Costituzione. Ricordate, vabbè, quello però si entra nel merito, si entra nel merito. È stata respinta perché noi parlamentari. Però io vorrei capire una cosa, onorevole Santa, che di mandato. Se lei, ma scusi, se ma lei tutti avesse quelli che del centrodestra sono andati col centrosinistra. Vabbè, non è che tutti, non è che tutti, secondo le accuse, hanno preso 2-3 milioni di euro, però. Ma infatti, qua nessuno ha preso 2-3 milioni di euro. De Gregorio dice di sì. De Gregorio dice di sì, ma se lei domani mattina dice di me qualsiasi cosa, sicuramente guardi, qualche procura le crederà. No. Su questo non c'è un però scusi un attimo, voglio capire una cosa. Se lei avesse di fronte in questo momento la Boccassini, se la incontra, cosa le dice? Guardi, quello che mi dispiace da donna, direi a una donna, che non deve usare come arma politica le donne. Perché vede, far filare quelle ragazze e chiedere a queste donne nel bacio del congedo, cioè del saluto, se baciavano Berlusconi alla Svizzera o alla francese o alla americana. Questo non è manco lei che gliel'ha chiesto. Io credo che sia lesivo della dignità delle donne. Ma se lei la incontra a Milano stiamo vedendo un processo di corruzione dove non c'è il corrotto. Stiamo vedendo un processo sull'induzione alla prostituzione. No, ma scusi, tanto anche sarà diverso. Però voglio dire, quando mi saluta, quando mi incontra e mi saluta, non mi saluta mica con la lingua a me, no? Vabbè, ma che c'entra? Adesso questo si entra nel dettaglio, su questo ha pure ragione. Ma questo è fondamentale, che il processo è diventato con la lingua, lo si dà soltanto quando c'è il vabbè, dignità. Ma dai, ma le domande sul bacio, ma le domande sul bacio. Ma lei scusi, quando saluta me, c'è già una differenza di come saluta me e Sallusti. Però no? scusi un attimo, lascia perdere che Sallusti non c'entra niente stasera. Nulla, lascia perdere. Lo sa che voglio dire il tormentone. Lo so, è il tormentone di Parenza, è fissato quando che è un represso. Lo so, ma lo so che è un represso, è molto represso. Turbe sessuali. È gravissimo questa cosa. Scusi, però io voglio capire una cosa. La Boccassini per lei, cioè, quando la incontra, se la dovesse incontrare per strada, qualche reazione lei ce lo a pelle, che reazione le consiglierei di fare come Ingroia, scendere e fare un partito, tenersi il posto in magistratura, fare un partito, cercare di essere l'arbitro, ma poi anche il calciatore, di smetterla di voler ammazzare l'avversario, un nemico politico attraverso delle sentenze, perché lei è vergognosa, la misura è colma, gli italiani tutto questo non lo vorranno. Italiani, meno male, ma certamente, perché guardi che chi ha votato Silvio Berlusconi, e le voglio ricordare, un italiano su tre, non è che non sapesse tutte le cose delle quali scusi un attimo, ma dopo il sit-in al Parlamento, che arriva dopo, Parenzo? Che potrebbe venire dopo il sit-in? Vabbè, l'occupazione della Corte Costituzionale, l'occupazione delle ma lei per esempio andrà alla prima seduta del Parlamento o la diserterà, perché c'era anche questa voce? Non lo so, guardi, non lo so, adesso siccome noi siamo un movimento politico e si deciderà. Cioè fosse per lei andrebbe alla prima seduta del Parlamento oppure non ci andrebbe così per protesta? Io sono disposta a fare qualsiasi cosa possa essere utile per ripristinare la democrazia in questo paese. Vabbè, non mi fermo davanti a niente. La democrazia. Nelle scritte dei tribunali c'è scritto la legge uguale per tutti. Bisogna ma hanno fatto una visita fiscale? Hanno fatto una visita fiscale? Hanno fatto una visita fiscale? Non è che hanno fatto niente? La seconda. Hanno fatto una visita fiscale. Vi ho già detto, non è che quei certificati li hanno mandati amici di famiglia del presidente Berlusconi. No, ma ho capito, li hanno mandati professori. Ma non è che sono i medici nazisti. Ma lo sa che Berlusconi è stata una persona, siccome la forza della verità, ma non erano i medici che di non si è assolutamente opposto, perché come che doveva fare? Uno si potrebbe anche opporre a una visita fiscale. Ma non erano i medici nazisti, non ha neanche considerato le sue prerogative. Non mi dica che erano i medici nazisti quelli là, come i medici mandati da io anzi credo che siano quello, Cicchito l'ha detto. Grandi imbarazzo, saranno molto imbarazzati. Molto imbarazzati, dice lei. Il presidente Berlusconi sta a San Raffaele con una diagnosi che tutti conosciamo, poi per la carità uno anche in coma, può andare con ma c'è gente con l'uveite che va a lavorare, da quello che risulta. O no? Lei li conosce? No, così leggo poi da bisognerà vedere il grado. Leggo da Repubblica, noi con l'uveite hanno fatto un'inchiesta, noi con l'uveite che andiamo ogni giorno a lavorare. Però mamma sarà mia. Che ne io so? Credo che guardi, Berlusconi sul lavoro non si è mai sottratto e oltretutto adesso, come ha detto oggi, da un comunicato ufficiale che è uscito sì. da San Raffaele, mi sembra che abbia anche altri tipi di problemi. Le zanzare di casa mia. Siamo qui 800 24 00 24, la zanzara, in una giornata in cui molti deputati del PDL hanno invaso, tra virgolette, occupato la zona antistante il tribunale, caro no, Parenzo. Togli, togli le virgolette. Ma adesso invaso il tribunale, adesso non esageriamo. Beh, hanno... Vabbè, ma c'è una manifestazione davanti al tribunale di Milano. In Francia o in Germania, secondo te? Sì, ok. Però, di... non è che hanno preso le... tedesco, Parenzo, che gli italiani la seguono. Ma non è lei che ha fatto... Lei è iscritto al club di Monti? Non è che, non è che andavano, sono andati con i fucili, eh. Hanno fatto no, una manifestazione. Parenzo, parli tedesco, che gli italiani la capiscono meglio. Ma lei è entrata dentro il tribunale? Certo che sono entrata. Ma... sono un cittadino, il tribunale, sino a prova contraria. Ma che c'entra? Ma sperava di incontrare la Boccassini? Speravo di incontrare la Boccassini, ma insomma la Boccassini forse si sarà nascosta. Con tutti i problemi del paese che ci sono, questi vanno. Bravo, tutti i problemi che ci sono del paese, il problema del paese è di mandare in galera Silvio Berlusconi. Ma secondo lei la Boccassini vuole mandarlo in galera? Sì, gode. Beh, la Boccassini ci prova da 20 anni, poi voglio dire. Cioè, ma godrebbe come una matta. Perché grazie a Dio in questo paese ci sono magistrati che fanno bene. Senta, il loro lavoro. Ma se Berlusconi va in galera, lei che fa? L'appello è sempre stato assolto. Ma se Berlusconi va in galera, lei che fa? Se guarda, io dico, siamo disposti a qualsiasi cosa. Cioè cosa? Qualsiasi cosa? Qua non è problema, cosa. Mettono in galera Berlusconi per ammazzare poi tutti noi, perché hanno capito ammazzare Berlusconi e poi noi tutti mangiarci a piccoli bocconi. Questo è il loro intento, questo è dichiarato, questo è dimostrato dagli atteggiamenti che sono stati presi in queste giorni. Ma la Boccassini è un po' fissata, ma secondo lei ma non è un po' fissata con questa roba? Ieri Sgarbi l'altro giorno da noi ha detto che ha una fissazione un po' sessuofobica. Non è fissata con questa cosa di Berlusconi, con le attività sessuali di Berlusconi? Ma lei ne ha fatto la mission della sua vita, è paranoico. E come mai? A questo punto come mai secondo lei? È il suo nemico giurato. No, ma quello... no, ma la cosa sessuofobica secondo lei perché? No, c'è... io guardi di sesso non lo so, non me ne intendo. Cioè non ha una fissazione da questo punto di vista, no? Io non lo so, non mi interessa, mi interessa che stia facendo questo danno agli italiani in un momento in cui dovremmo essere tutti coesi, fare un governo, dare le risposte. Vabbè, ho capito, però i processi vanno avanti, i processi vanno avanti. Ma i processi vanno, ma lei ha rispetto per la Boccassini o no? Non ha rispetto. No, per... io zero rispetto. Zero. Zero rispetto più assoluto e più totale, perché non mi piace chi è in quel ruolo così importante ed è invece di parte non super parte. Non mi piace. Cioè fosse per lei che dovrebbe fare? Dovrebbe fare politica, farsi eleggere dagli italiani, presentarsi con un programma politico, dal primo punto Berlusconi in galera e poi vedere chi la vota. Ma secondo lei questo accanimento, quello che lei chiama accanimento, può portare a potrebbe portare alla morte di Berlusconi? Cioè è una cosa che gli provoca problemi gravissimi anche da questo punto di vista? No, io dico, beh, la morte politica è l'intento loro. No, ma rischiano di ammazzarlo anche fisicamente, come è successo con Craxi. Certamente in questi giorni il presidente è sottoposto a un tale stress, a una tale pressione, e tante umiliazioni. Il primo contribuente, quello che paga più tasse in Italia, quello che ha dato da lavoro a 56.000 persone, quello che ma che umiliazione è? L'umiliazione qual è? L'umiliazione di essere in una suite, trattato come... peggio di Totorina, di essere trattato come peggio dei mafiosi. Beh, peggio di Totorina, quelli stanno ma stanno a 41 bis quelli, non avevo sentito anche. Quelli stanno a 41. Ma quelli hanno ucciso, hanno ammazzato. No, appunto, dico, quelli stanno hanno fatto le strage. Appunto, e lei ma dice che peggio. Di paragone. No, è lei che l'ha detto Totorina. Mettere al 41 bis. Ma no, ma sto dicendo, quelli stanno a 41 bis perché hanno ammazzato, lei ha detto sono trattato peggio di Totorina. Esatto, sei trattato peggio, ma è no. Umiliato, è trattato come il peggiore dei delinquenti, come quelli che uccidono, che ammazzano. Ma gli hanno fatto due visite fiscali, poi c'è qualche processo in corso, al limite piglierà qualche anno di galera. Cruciani, ma non andrà. Non è informato, Sì. Cioè è 20 anni. Vabbè, 20 anni adesso. Berlusconi si è saputo difendere è bene. Torchio, non l'hanno mai potuto condannare. Ma quanta gente si è ammazzata perché i PM hanno sbagliato le sentenze? Beh, lui non rischia questo, mi sa, no? Non rischia questo. Ci sono in galera, quanti errori giudiziari, Mannino per dirne uno. Tortora, per dirlo, Tortora, un altro, sì. Ma ve lo siete già dimenticati? No, no, per carità, no. E allora, cosa volevi? Fare qualcosa con Tortora? Vergogna! Cosa? Cosa? Vergogna tirare in ballo Enzo Tortora per una storia di urvite o di orchite, non so che cosa sia, se l'orchite o l'urvite. Uveite si chiama, uveite. Ma appunto, Parenzo, lei dovrebbe essere unito con me, perché dovrebbe dire che ci sono... una mala giustizia. Scusi, in Italia, ma la realtà è la realtà nostra, lo vogliono, se Berlusconi fosse condannato rischia pare 16 anni di galera. Lei che fa alla fine? Voi che fate se dovesse arrivare una condanna definitiva e rischio della galera di fronte all'autorizzazione a procedere della Lo permetteremo. E in che modo? Io non lo permetterò. Ma in che modo? In qualsiasi modo. Cioè col corpo, con le cose, come fate? In qualsiasi modo. In qualsiasi modo. Perché la democrazia, cioè il potere, l'equilibrio tra i poteri dello Stato, a parte che la magistratura non è un potere, è un ordine, deve essere in equilibrio. Non possiamo... Ma come si fa a impedire una richiesta di... Ma se lo vogliono arrestare, non è che lui pensa a scappare, no? Non penso. Ma Berlusconi non scapperà mai, Berlusconi è un uomo che... Cioè non è come Craxi, dice lei, non è come Craxi. Berlusconi, io sono certa, per come conosco l'uomo Berlusconi, che non fuggirà, non scapperà, starà qua, si sottoporrà a tutto quello che gli verrà chiesto. Non è come Craxi, difenderà. Dice lei, non è come Craxi. No, io escludo che Berlusconi possa andare in qualche paese a cercare asilo. Craxi sbagliò, fu un po' fumato. No, io non mi permetto di dire che Craxi ha sbagliato, non mi permetto. Permetto di dire questo, dico che Berlusconi non lo farà. Sarà qua. Va bene. Sono certa. Grazie, a presto. Arrivederci. Parenzo, ci sei? Sì, ci vediamo allora alla Corte Costituzionale per la prossima invasione. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo. Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! E poi all'altro, una botta nel braccio, e poi all'altro, prendila, prendila, scazzala, scazzala, ti ho beccato! Fanno finta di bisticciare PDL e PD meno L, ma poi sono d'accordo con tutto sulla cementificazione che avete qua davanti. Ci sono le coprose e c'è l'impregilo. Sulla TAV ci sono tutti e due. Sul conflitto di interessi vanno d'accordo. Sulla nucleare vanno d'accordo. Fanno tutte queste cazzo di manfrine. Hanno già deciso tutto. Bisticciano in Parlamento, poi vanno a farsi due bucatini alla matriciana. Insieme. Spegni la luce, passa dalla TV. Ti ha beccato, ai ai, ti ha beccato. Come ti stendi nel letto, quel noioso insetto. Beh, le premesse sono giuste, sono buone per un accordo tra PD e Grillo, Parenzo. Sono buone le premesse. Ogni volta che Bersani dice qualcosa, Grillo risponde, alza l'asticella e lo prende a parolacce. Diciamo la realtà, diciamo com'è la verità. Ma quello, il padrone assoluto di questa diarchia Casaleggio Grillo, è evidente che non ha nessun interesse a fare ma nessun tipo, ma neanche a bere un caffè alla buvette con i deputati di Bersani. È evidente la strategia terribile di questi due. Ma perché cosa dovrebbe fare, scusa, non ho capito, accordarsi con Bersani, consentire a Bersani di formare un governo, che l'unica vera ossessione di Bersani è entrare a Palazzo Chigi, costi quel che costi. Ma ha presentato 8-10 punti, ma perché non l'ha presentati prima? Un meraviglioso programma di governo, meraviglioso per modo di dire, ovviamente. Un programma, programma in 8-10, stesso, no? 8-10 punti, ma perché non l'ha fatto prima allora? Siccome il programma del 5 Stelle, ma dai, su, non è lo stesso. Dai. È ovvio che adesso loro dicono, per uscire dall'impasse ci sono 5, 6, 7, 8 cose da fare. Ma perché non l'hanno dette prima? Perché non le hanno dette prima queste cose, Bersani e i suoi? Perché non le hanno dette prima? È evidente che il programma dei 5 Stelle non è lo stesso del PD. No, ma no? Perché queste cose Bersani non le ha dette prima? Scusa, erano emergenze democratiche. No, che emergenze dice, fondamentali. Troviamo un accordo su alcuni punti che possono andare bene anche a voi. E poi si torna al voto, questa è la questione. Comunque, se vi piace così, con la gazzarra di quelli che vanno al Palazzo di Giustizia, tra l'altro, aperta parentesi, vedere tutti quei signori che vanno al Palazzo di Giustizia, io ne avrei approfittato, fossi la Boccassini, per dire, Verdini, è venuta la manifestazione, venga un attimo anche il tribunale che le facciamo due o tre domandine. Perché non ma non mai è quello visti. Il tribunale, non è quello il tribunale giusto. Comunque. Non importa, per competenza. Comunque tanti facevano due o tre domandine, anche se non era quella la competenza. Allora, dal documento, trovate un riassunto sul sito del Sole 24 Ore, dal documento che alcuni chiamano dossieraggio di Renzi nei confronti del Partito Democratico, dello stesso partito cui appartiene, si desume che cosa? Ho qui davanti cifre, nomi, eccetera, eccetera. Non parlerei di dossieraggio, ecco. No, ecco, dossieraggio non c'entra nulla. Questo nessuno di noi ha il cervello alla mano. Allora, vogliamo fare qualche cosa? Chi è che ha l'alloggio pagato, sempre secondo questo documento, eh? Ma non è detto che... Ma ecco, ma sono soldi tuoi, sono soldi tuoi. L'alloggio soldi pagato. Della politica. Sono soldi che cacci fuori tu. L'alloggio pagato dal Partito Democratico, per esempio, è alla responsabile del forum Radio Televisioni, l'ex senatore Rognoni, che non è retribuito ma ha l'alloggio pagato. Un altro che ha l'alloggio pagato, sempre secondo questo documento, è il responsabile degli enti locali, Davide Zoggia, certo, che prende dal partito 3.500 netti più l'alloggio pagato. Che lavora per il partito oltre a fare l'amministratore. Ma io non sto dicendo niente, io sto raccontando le cifre. Responsabile delle feste Paganelli, che peraltro è passato con Renzi, guadagna circa 8.000 euro. E vabbè, poco, è un dirigente. Beh, poco 8.000 euro, vallo a dire quelli, guadagna ai tuoi amici. Poco, Paganelli. Vallo a dire ai tuoi amici. Te lo dico io, il direttore, Paganelli guadagna poco. Benissimo, il direttore... Del, guadagna il giusto, il direttore, perché è un dirigente. Il direttore della televisione del Partito Democratico. Ma tu, scusami, sai cosa vuol dire? Vuoi stare zitto? Mi vuoi far raccontare le cifre invece di dire le tue stupidaggini? Il direttore della televisione del Partito Democratico, UDEM, Chiara Geloni, da quello che risulta da questo documento, prenderebbe 90.000 euro lordi più un altro contratto di collaborazione col Partito Democratico intorno ai 20.000 lordi, per un totale di 110.000. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Giustizia, parlamentari del PDL nel tribunale di Milano, intervenga Napolitano e minacciano di disertare le prime sedute della Camera. Compravendita di senatori, la procura di Napoli chiede il processo immediato per Berlusconi, caso Rubi accolto il legittimo impedimento. Bersani riunisce gli eletti PD, non possiamo governare da soli ma nemmeno gli altri, Grillo vuole mani libere, non pensa al paese. Il leader 5 Stelle sfida il PD, rinunciate ai rimborsi elettorali, il portavoce voteremo sì all'arresto di Berlusconi. Crisi sempre più nera, l'Istat quasi 7 milioni di italiani in gravi difficoltà, crolla il potere d'acquisto ma l'Ocse vede la ripresa. Iore Finanza Vaticana al centro dell'ultimo dibattito tra i cardinali, da domani occhi puntati sul comignolo della Cappella Sistina. I due Marò accusati della morte dei pescatori non torneranno in India, il ministro Terzi Delli viola i trattati internazionali, pronti ad un arbitrato. Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza, zazza, zazza, zazza, zazza. Beh, c'è qualcuno che vuole votare il Presidente della Repubblica online. Votazione online per il Presidente. Beh, il capogruppo al Senato del 5 Stelle, signor Crimi, signor Vito Crimi, che non è il Crimi del PDL, signor Crimi, sentiamo. Come abbiamo fatto per le parlamentari, voteremo online su una rosa di candidati che saranno proposti, voteremo e decideremo il candidato Presidente della Repubblica. Restare al buio. Il candidato, il candidato. E c'è un rumore che non mi dà pace, sembra il motore di un aeroplano che si avvicina a me piano piano, che cerca un po'. Sentiamo Fiorello che imita Crimi, vai. E sul mio buongiorno, sono Crimi. volevo dire una cosa. Allora, intanto volevo dirvi una cosa, non mi interrompo, non dire niente, te lo dico subito. Volevo dire una cosa incredibile. Allora, la nostra strategia, la nostra politica è quella che noi diciamo delle cose, io come capogruppo dico una cosa il lunedì che verrà smentita da Grillo il martedì, è sempre così. La zanzara dispettosa fa zazza, è la zanzara capricciosa, la zanzara. Ancora Fiorello, se appoggiamo al PD tutti a casa di Grillo. A chiunque osa dare fiducia a quel minchia di PD, tutti a casa, lo slogan sarà tutti a casa di Grillo, tutti a casa, non ci azzardiamo a pigliare po' culo il Movimento 5 Stelle, se no ce lo fanno loro, po' culo. La zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, bazzazza. Ma tra l'altro sto Crimi mica è siciliano come Lascia, sì forse è di origine siciliana, però non è che ha questo accento... così spiccato, no? Beh, è una caricatura, giustamente un'imitazione si calca forse di più i caratteri, no? Paolo, provincia di Teramo, buonasera. Buonasera a lei. Dica. Niente, alcune cose. Una ricetta per far star bene l'Italia, chiunque la faccia, è come una metafora, è come fare il baccalà con le patate. Si può fare in tantissime ricette, ma il baccalà e le patate comunque ce le vogliono sempre. Quindi se chiunque vada a comandare, per poter fare delle cose buone o fatte bene, deve fare più o meno tutti quanti le stesse cose. Quindi lo sa che non ho capito Grillo, nulla. Fa io. Bene il PD, fa bene chiunque, può far bene il PDL, ma l'importante è fare le cose giuste. Ma giuste secondo chi? Per chi? Chi lo decide quelle che sono giuste o sbagliate? Chi lo decide? Ma guardi, per mantenere come la famiglia, la sua famiglia, la mia famiglia, cioè se chi lavora, chi deve andare a lavorare, deve portare a casa, deve pagare la bolletta, deve fare sì, ma guardi che caro, lo Stato è la stessissima cosa, sì. Non cambia niente. Deve fare bene, ognuno deve fare bene per il proprio lavoro. Ma non è un progetto di governo quello di dire ognuno deve fare bene per il suo lavoro, non no, vuol dire nulla, di governo, deve ma non vuol uguale, dire niente, cioè... non vuol dire niente, niente. No, è uguale, se lei va in America o va in Inghilterra, la differenza tra i due partiti è minima. Vabbè, al di là di questo che non ho capito niente, cosa vuole dire? Vogliamo dire che tutti quanti dovrebbero portare adesso, come adesso, l'Italia ad essere un paese... come lo siamo sempre stati, ad alti livelli. Vabbè, arrivederci. Giulio, provincia di Latina. Giulio. Sì, buonasera. Dica. Ci sono? Sì, dica. Buonasera a lei e a Parenzo. Sì, vada, vada. Affamare la bestia sempre. Sempre, sempre. Primo. Secondo, basta con Alfano che è diventato praticamente una meba. Io da ex PDLino non lo sopporto più. Ma è una meba, sta lì. Però, è ritornato con Berlusconi. Ossia senza palle. Vabbè, abbassi la radio, abbassi la radio, spenga la radio innanzitutto, su. È tutto spento. Sì, è tutto spento, intanto sento il rumore di ritorno, su, andiamo Giulio. Chiedo scusa, e quindi Berlusconi di cuore va bene, e basta Bersani se poi mi... Vabbè, arrivederci, Andrea dalla provincia di Piacenza. Buonasera Cruciani, buonasera. Vada, vada. Io non mi sono mai divertito come oggi. Perché? Non mi sono mai divertito perché vedendo questi che sono andati lì davanti al Palazzo di Giustizia a Milano, sì, e si sono infervorati contro la magistratura, sì, che poi praticamente non otterranno nulla, non otterranno, è stata veramente una scena. Poi seguivo la radio ora per ora con il giornale radio, così è veramente... Io oggi ero sul camion che facevo le capriole da ridere. Poi quando hanno cantato l'inno di Mameli, l'inno d'Italia, insomma, è stato veramente il clou. Stonati come delle campane, proprio dei tabalori, l'ennesima potenza. Noi qua in Valtidone li chiamiamo tabalori, persone di poca credibilità. In Valtidone. Vabbè, è giusto, perché d'altra parte qual è l'obiettivo di questa manifestazione? Non si capisce qual è, intimidire i magistrati oppure sì, mettere, paura, magistrati in Italia. Mettere paura a qualcuno, non lo so, qual è l'obiettivo? Perché non c'è, ogni cosa deve avere un suo obiettivo politico, no? Cioè l'obiettivo politico in questo caso qual era? Cioè che per ottenere cosa? Non si capisce. Assolutamente nulla. Zanza, zanza, zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna. Appello a tutti coloro, caro Parenzo, che hanno accanto a sé bambini, minorenni. Fallo tu questo appello come al solito. Beh, cari amici della Zanzara che siete in ascolto, che state ritornando nelle vostre case dopo una dura giornata di lavoro. Beh, cari amici, prendete i vostri bambini che siedono tranquillamente in macchina e sono ignari di tutto, fermate la macchina a bordo strada, tirate fuori i bambini, tirate fuori anche il seggiolino, con una forbice tagliate le cinture di sicurezza. Vabbè, non servono. Non servono le cinture di sicurezza. Rimettete il bambino dentro la macchina, tirate giù il finestrino, lasciate però la porta dietro della macchina aperta, via tutto gas. E ovviamente Zanzara a palla, perché qui entra in campo il signor Sgarbi. Sgarbi? Beh, sentite sul processo Rubi alla Boccassini. Siccome qui il caso è evidente che c'è circonvenzione di attentato e che la vittima è Berlusconi, della povera e disperata ragazzina, la quale non si sente affatto vittima di un cazzo, il processo è un processo assolutamente infondato. La parola tu, Marina, te, recitare e se no dormire. C'è un giurista che si chiama Rubi Rubacuori, la quale dice: ma come mai di quelli che sono venuti a letto con me pagandomi perseguono solo Berlusconi? Se l'azione è obbligatoria e non è motivata da una causa fatta da lei o dai genitori, perché gli altri 200 che l'hanno trapanata a pagamento, essendo minorenne, non vengono processati? Beh, discorso chiaro, no? Lampante, sentite su Pasolini. Neppure Pasolini faceva pompini agli studenti della sua scuola che avevano 15 anni, non è stato perseguito. Pasolini a casa sua. Pasolini. E poi per concludere Sgarbi dice: siccome alla fissazione di Berlusconi dovrebbe indagare tutte le persone che sono andate a letto con Rubi Rubacuori, io utilizzo la parola andate a letto, in realtà come avete sentito è diverso, e la Boccassini dovrebbe essere presa a calci in culo dalla magistratura, così dice, così dice lui. Annarella, come stai? Io sto bene. Dove sei? Già a letto stai? No, no, te lo sto di che sta a dormire il cuccioletto che c'ho. È il puzzoletto? E che c'è il puzzoletto? C'è un cuccioletto, un cane. Ah, un cuccioletto. È razza, oh, mi hanno fatto per regalo per la festa mia. Ma chi te l'ha regalato sto cuccioletto? Lo sai chi mi ha regalato? Lo conosci pure, Dante, quello di Sky. Chi? Chi è? Quello che sta sempre a Piemonte Cittadina a fare gli interventi. Beh, allora bisogna che ti regaliamo qualcosa pure noi. Che ne regali? Tu quando vengo a Roma? Presto, presto vengo a Roma. Ma oggi che è successo al Partito Democratico? Sono stata oggi al Capranica, dove stavano tutti quelli del partito mio. Che dicono? Ho visto tutti, quelli nuovi, quelli vecchi, ho visto tutti. Ma che gli hai detto a qualcuno? E io ho detto a Bersani, ti atte duro e cerca da tenere i posti più forti, perché se no non andiamo avanti. Ho capito, però qui... Ma vicino a te che vedrà quanta gente ci frega a Berlusconi. Però che c'entra adesso Berlusconi? Il problema qui è Grillo. Ma quello è deficiente. Ma come è deficiente? Quello è il pecoraro con tutte le pecore. Ma che c'entra un pecoraro adesso, Annarella? Ma lascia perdere, ma visto che gente che c'è? Che gente c'è? Ma quando hanno studiato questi? E che ne ma so? Ma che so? Ma sanno manco trappare la terra. Ma sanno che cos'è la politica? Ma non lo so, non lo so. Adesso devono... allora? Si devono ancora formare, devono ma ancora sì, imparare. Vabbè, allora che si informasse quel deficiente. Ha visto quante cose c'ha? Pure lui che le ferite che c'ha? Buono, pure quelle. È uguale a Berlusconi. Berlusconi ha posto la pasta al botulino, non è più italiano, è cinese. E c'entra adesso il botulino di Berlusconi? Ma l'ha visto che non va a rispondere all'interrogatorio perché c'è brutta congentuita. Quella c'è venuta perché si è fatta il botulino in faccia. Ma no! E allora è diventato cinese, vedi che l'occhi ce l'ha con i cinesi, non è più italiano, è cinese. Però scusami Annarella, adesso quel poveraccio sta ricoverato in una suite. Ma sta là. Dove? Scusa. Mi sempre i parolacci. No, ma scusa un attimo, è ricoverato. La piazza è là di dietro. Ho capito. Prima ruba fuori. Acqua all'arca zuzza. Scusa un attimo. Ha visto la Sant'Anche come si pia le difese. C'ha una bocca come una pagnotta di pane casareccio. Ma no. Però scusami un attimo, Annarella. Hai visto c'erano tanti deputati davanti al tribunale oggi, no? È bella roba. Vabbè, una bella figura. Una manifestazione davanti al tribunale. Pensa a te, se fanno un onore. Ma che non lo sanno che era un sozzolo e un ladro, un delinquente. Scusa un attimo, Annarella. Ma stacce. No, l'Italia si trova sfasciata per lui. Sono 20 anni che ci ha rovinato dappertutto. Però scusa. Ha comprato i senatori. No, quando Napoli ci fa quella lì, sono affari tua. Beh, adesso io lo devo vedere in galera. Tu lo vuoi vedere in galera, Sì. In galera proprio, con i ceppi. Proprio in galera, e tutta la chiave. Addirittura butta la chiave, Annarella, sì, su. Butta la chiave. Vabbè, dai. Lui che tiene all'Italia, si è rubato tutto. Però scusa, questo adesso... deve rubare. Però scusami un attimo, adesso ha la congiuntivite, ha l'uveite, là. Ho capito, ma non può andare in tribunale. D'accordo, ma non può andare in tribunale, sta male, c'ha problemi cardiaci. Bello. Porello. Ho capito. Oh, zitta, ma questo è matto, quella congentura non va a rispondere perché voglio mandare sempre i processi per dargli una prescrizione, ma stavolta non se riesce. Però comunque Annarella quella lì, come si chiama? Chi? cosa là? Chi? Il giudice, quella rossa. Ah, la Boccasini, la rossa. Ti piace la Boccasini a te? Eh? Ah, Boccasini, sì. Scusa un attimo, però diciamo la verità, Nanella, il problema vero è uno, è che questo Grillo l'accordo col PD non lo vuole fare, hai visto come risponde? Ma chi se ne frega, ma io non voglio per niente, perché domani cominciano là, che si è tempo buono, senti tu quando li becco quelli che ci faccio peggio di quelli del Berlusconi. Sì? Che glielo ha studiato, fammi di castigliato. Sì. Poi te lo dico io con la canzone. Ma per te Grillo com'è? Ma che bella. Senti, io già non soffrivo quando faceva il comico. Pensiamo. Però adesso dice a Bersani, se vuoi rinuncia tu al finanziamento pubblico dei partiti. Firma sta cosa qua. Devi rinunciare ai soldi per il partito, andare. Ma che me frega a me? Ma sì, è quelli però che gli danno, quelli che scrivono a fare cosa al partito del Grillo, gli ci danno i soldi a lui. Oh, più a 4 milioni l'anno ci danno. Vabbè, ho capito, questo ha capito, sì. Maestro... No, che lui sta gratis. Ma se frega i soldi a quei poracci che se fai leggi. Vabbè, Andrea, aspetta un attimo, 800 24 00 24. Umberto, provincia di Palermo. Buonasera Cruciani. Vada. Allora, io dopo l'intervento di Annarella, certo è difficile, però se io e Annarella andiamo in ospedale con una congiuntivite, state tranquilli che nessuno ci ricoverano, ci scrivono un bel collirio e ci rimandano a casa. Ora tutta questa gente... Ma c'è congiuntivite e congiuntivite, su, dai! Ma se non è congiuntivite, qualsiasi cosa sia... Il problema è questo, Cruciani, e questo è il simbolo del distacco che c'è tra questa classe dirigente e la gente che ogni mattina si alza per andare a lavorare e per risolvere i problemi delle famiglie. Perché... questa gente non può rappresentare il popolo se poi in queste condizioni ha dei favori, dei sistemi di ma quali favori? Ma dai, adesso non esageriamo, non sarà mica il fatto che Berlusconi salti 2-3 udienze o quello che è, 2-3 interrogatori. No, cioè... no, ma infatti, ma il concetto, il principio è proprio quello di fregare la gente, che tutto possa passare attraverso l'idea di fregare la gente, perché non sarà congiuntivite, sarà... un altro tipo di allergia o di infezione agli occhi, ma sia tranquillo che se io e lei domani mattina andiamo al pronto soccorso di qualsiasi ospedale e andiamo con questa patologia, ci scrivono un bel pollino e ci rimandano a casa, nessuno si prende la briga di prenderci 4 giorni in osservazione perché abbiamo la congiuntivite. Vabbè, guardi, ci sono patologie e patologie, ovviamente, pazienti e pazienti. Sai, Parenzo, che Bersani oggi ha detto a Grillo: Grillo pensa solo al potere. Ma ti rendi conto o no? No, Grillo pensa solo tutto. No, ma pensa solo al potere. Ma perché, scusa, l'obiettivo principale, l'ossessione vera e propria da parte di questa dirigenza del Partito Democratico qual è? No, cioè non è quella di entrare a Palazzo Chigi. Allora tutti pensano al potere, tutti, su. Ma questo non c'è dubbio, infatti secondo alcuni dirigenti, secondo alcuni ambienti del Partito Democratico, Bersani pensa anche al bene del paese, invece Grillo non gliene frega niente perché vuole scassare tutto. Ma che discorsi sono? Tutti pensano al potere e al governo del paese, questo è evidente, se no uno perché corre? Per fare il numero due, no? Fare il numero uno in genere, no? E allora? Ma questo, infatti, non c'è dubbio, è una sciocchezza questa che ha detto Bersani, ma non è che sono completamente stupido, cioè io critico, poi tutti gli attribuiscono questa vicinanza al PD, quando fa bene dico che va bene, quando fa male va male. La cosa gravissima qual è la cosa gravissima? Che sta disarticolando i poteri dello Stato. Ma se lo vuole, ma è quello che ha sempre voluto fare. Così come sta facendo Berlusconi. Ma che disarticolando cosa? Ma che poteri sta disarticolando? Scusa, sta disarticolando i poteri dello Stato, perché non riconoscere l'importanza dei passaggi parlamentari, l'importanza del fatto che comunque tra poco c'è l'elezione del capo dello Stato, quell'altro matto. Ma chi ha detto che non lo riconosce? Scusa. Quell'altro matto che dice faremo le cose con la rete. Con la rete, non occorre andare alla... Che cos'è la Camera? La Camera è morta, ognuno sta a casa sua e risparmia pure di meno. Perché andare a Roma? Uno da Caltanissetta con un clic approva una legge. Cioè, se passa questa puttanata con un clic... Ma in realtà non è vero, perché il capogruppo Crimi ha detto che loro prenderebbero volentieri anche la presidenza della Camera, la vicepresidenza, il questore, eccetera, eccetera. Annarella? Ciao cara! Ma chi era? Era Parenzo! Quello che parlava! Parenzo era! E poi un po'. Dice che Grillo. No, è Grillo, Annarella Mignotta! Ma che è fio della Mignotta? Chi dici? Grillo! Perché è un fio della Mignotta? E perché te lo dico io? E perché è un fio della Mignotta? Ma... Oh, senti, mo te lo faccio dire. Dimmi. Allora oggi sono andata lì al congresso. Ah, dimmi un po', congresso, la cosa dei deputati. Allora sono stata al congresso. Alle 2 sono andata là, sì. Alle 2:30 cominciava il congresso, l'ho visti tutti. Sì. E sto chiedendo, è tutti nei corsi del PD. Sì. Allora senti una cosa. Ma non sono allora, anime morte. Persone, cioè, giù al cosa, a Capranica, c'erano tutte quelle che stanno lì, devi avere il tesserino, che ne so io. Là. Sì, sì, devi avere all'assemblea elettrica allora, del PD. Allora? Allora dice, andare a mettere il sede qua. Io ho detto, che boh, perché il posto entra? Dice, no, perché devi essere... A me mi dovete mettere pure il tappeto rosso. Per... Sai che mi ha detto Iervolino? Che ti ha detto Iervolino? Se non c'ero io, non esisteva manco il PD. Boh, adesso esageri, dai, su. È così mi ha detto Iervolino. Beh, ma Iervolino... Allora, lo risale, poi è passato. Dice, no, aspetta, il giudice entro. Che me frega. Tanto io entro. Certo. Allora quando ma perché Grillo? Ma io non ho capito. Sono morti bruciati a Torino. Ma perché Grillo è un figlio della mignotta? Non ho capito. Lascia perdere, ma non mi fa dire le cose. Ma perché? Perché? E perché è scemo? Perché? Un pecoraio, hai detto? Perché? Ma che nome pure Grillo? Perché? Ma sai i figli? Ma moglie, ma qual è? La moglie che è? Dove sta? Cosa l'hanno fatta la guerra là. E in Iran, è iraniana la moglie. È iraniana, pensa un po'. Ma che è? Scusa, ma che qual è il problema? No, niente. Vabbè, comunque, Andare. Ma che la prima moglie, la seconda moglie? Boh, che ne so. Scusa, Andare, adesso poi ti richiamo perché ti devo presentare una persona più avanti. Ti devo presentare una persona che ti con cui ti scatenerai. Grazie. Allora, il medico di Berlusconi, Zangrillo, risponde ad alcuni utenti su Twitter in questo modo. Uno gli scrive: il nano vede delle strane sbarre davanti agli occhi, punto interrogativo. Lui dice: lei deve andare a farsi foltre con tutta la sua famiglia. Non lo immaginavo. A un altro dice: lei è uno sfigato, mi venga a trovare se hai il coraggio. Allo stesso, anzi. A un altro: viemmela a dire a casa o in ospedale ti aspetto. Giustamente Zangrillo, secondo me, risponde pure a degli insulti che ha ricevuto, anche delle minacce, dice. Forse andrà anche dai carabinieri. Però certo, lei deve andare a farsi fottere con tutta la sua famiglia. Però questo è frutto, sai di che cosa? Vabbè, ma reagisce agli insulti. È con noi Vauro Senesi. Ciao Vauro, come stai? Ciao, tutto bene. Beh, combattiamo qui, combattiamo. Eccolo. Beh, io ti ho evocato la settimana scorsa perché ti ho difeso a spada tratta, forse la cosa... Me l'hanno riferito, ti ringrazio e sono anche un po' preoccupato. Beh, ti devi preoccupare. Preoccupati, Vauro. No, perché quel finto democratico di Parenzo, che non capisce nulla di satira e di ironia, dice che con i morti non si deve scherzare. No. Capito? Sì, tu hai detto questo, Parenzo. Ho detto un'altra cosa. Che cosa hai detto? Ho detto che apprezzando la satira di Vauro, vabbè, questo... dico però che col cadavere caldo lì, l'uomo che si è appena suicidato, oddio mio, l'evocazione di Vauro rispetto a Bersani sul suicidio politico mi sembrava fuori luogo. Ma che c'entra? Ma la satira la si fa pure, ma soprattutto quando c'è un fatto di cronaca, altrimenti no. Ma non censurerei mai, cioè che sia chiaro, ma nessuna censura. Ma che c'entra? Ma quello è scontato. Un attimo solo. Vogliamo di uno che lo conta un cazzo. Vogliamo riassumere. Ti ho riacceso Parenzo. Vogliamo riassumere. Di uno che non conta nulla. Oddio, ho capito. Ma perché ti devi buttare così giù, qualcuno non conta nulla. Però devi moderare i termini, perché queste espressioni sono terribili, cadavere caldo, oddio mio, io non le userei mai in una vignetta. No, però voglio dire, tu hai fatto una vignetta quando praticamente a poche ore dal suicidio col di cadavere caldo. Col cadavere caldo. Dirigente del amico mio, quello si era appena buttato giù, cadavere caldo, come si dice? Non è il mio costume, anche perché sarebbe poco rispettoso verso i miei lettori spiegare le vignette. Certo. Anche perché poi la vignetta è veramente molto democratica, che tu mi dica, ognuno può darne l'interpretazione che crede. Ma io sono io a imporre un'interpretazione. No, certo. Ma il cadavere caldo non c'entrava proprio niente, mi dispiace Parenzo, se caso c'era un cadavere freddo, la politica che entra nelle banche. Però comunque la cosa era: dirigente del Monte dei Paschi si suicida lasciando un biglietto con su scritto ho fatto una cavolata, e Bersani non ha ancora nemmeno scritto il biglietto. È evidente che c'era sottinteso la vicenda del suicidio del tizio. Qualcuno si è scandalizzato anche su Twitter, come avrei letto probabilmente. Sì, no? Sì, ma non c'è problema, ci mancherebbe anche che con la satira non si scandalizzasse nessuno, nemmeno con quella. No, ma infatti, no, infatti secondo me non c'è nessun problema. Ripeto, alcune cose vanno fatte. No, bisogna essere feroci fino in fondo, sempre. Feroci e soprattutto utilizzare. Ma utilizzare anche i fatti di cronaca. Non è che si è suicidato un passante. Cioè, non è che si è suicidato, no, Mauro. Non è che si è suicidato uno qualunque. Si è suicidato una persona di cui si discute la vicenda del Monte dei Paschi, eccetera, eccetera. Ora, non, ma non era la trasmissione scorsa, mi hai detto che parlavi di questa cosa. No, no, sì, ma era giusto un appiglio. Ma era evidente che la vignetta si riferisse al suicidio del signor Rossi. Vabbè, ma tu sei preoccupato dell'arrivo di Cairo alla 7? Ma sinceramente no, non so cosa accadrà, ma sono uno abituato a fare le valigie, sono un vignettista rom, nomade, per cui non ho problemi. No, però voglio dire, molti parlavano prima di no, l'uomo che è stato con Berlusconi tanti anni. In realtà, sì, è vero, tutto vero, no? Nella prima conferenza stampa però addirittura si è mostrato più berlusconiano degli anti-berlusconiani, c'è cioè più anti-berlusconiano di quelli di un tempo, dicendo ci vuole la legge sul conflitto. Ha difeso Barbacetto pure. No, ha difeso Barbacetto, ci vuole la legge sul conflitto di interesse. Io al contrario a Cairo e Cruciani, né Vauro né io siamo, anzi, siamo amicissimi. Ma smetti. Tu sei l'unico che andavi, hai bisogno di dirlo alla radio. Ti ripeto quello che ho detto prima, non sono uno che fa molte difficoltà a fare fagotto andarmene. Ma temi una cosa del genere, no? Più di 50 anni mi si sono abituato, anzi devo dire che mi ha variato la vita questo nomadismo del vignettista che vi sta parlando, è una delle sue peculiarità. Ma non sei preoccupato comunque per l'arrivo di no, per questo editore? No, non sono preoccupato, non sarei preoccupato neanche se se lo fosse comprato direttamente Berlusconi la 7. Perché dovrei essere preoccupato? Che ne so, la libertà non è una cosa che ti viene concessa, altrimenti è una prebenda. La libertà è una cosa che tu ti prendi, difendi finché è difendibile e poi te la prendi e te la porti con te. Ma non ti piacerebbe tornare alla RAI insieme a Santoro prima o poi? Io, guarda, non soffro di terribili nostalgie per la RAI, sarà perché gli ultimi anni che abbiamo trascorso stati... in RAI... Io e Michele erano anni piuttosto difficili, con pressioni ridicole. Non so se il ridicolo rende peggiore la pressione, insomma, no? Beh, però le cose sono cambiate, no? C'erano dei livelli grotteschi, alcuni mi hanno anche riguardato, e cosa risaputa, sì. Ho lavorato per un anno senza contratto. Per cui non hai questa... Ma scusate, toglimi una curiosità, guadagni di più alla 7 tu come... oppure per quando eri alla RAI? Visto che ti ho appena detto che ho lavorato un anno senza contratto... No, sì, poi ti avranno pagato alla fine. Di più alla 7, ma non è la 7 che mi paga, perché la trasmissione per cui lavoro certo. Non è della 7, sì, è della società di produzione... che fa servizio pubblico, la manda in onda. Comunque, mi dispiace per tutti quelli che dicevano fino a ieri che sono pagato da Telecom e diranno domani che sono pagato da Cairo. No, ma tu comunque in ogni caso tu non sei... Di male, mi dispiace togliergli queste soddisfazioni. Vabbè, non c'è niente di male essere pagato da Telecom. No, non c'è niente di male, ma non è il mio caso, ecco. Capito, Parenzo? No, Paolo, ma su questo è coerentissimo, dice mi farei pagare anche da Berlusconi, basta che mi faccia fare il mio lavoro, quindi... Dubito però, dubito. Perché no? Dubito. Perché io dubito. Ma io, cioè, io se Berlusconi ti garantisse la stessa libertà che hai... Cioè andresti a Mediaset, se ti garantisse la stessa libertà, lavoreresti pure per Mediaset? Oppure c'è un paletto? Se mi garantisse con l'esperienza, sì. Perché non è una garanzia che c'è per contratto formale, sì. La libertà, certo, perché no? Io non sono per la chiusura o per... boicottare spazi di informazione, di cultura, di istruzione, tutt'altro. Io lavorerei con Berlusconi. Non capisco il bene. No. Vabbè, creduto in questa roba. C'è gente che dice io con Berlusconi non lavorerei mai, comunque, in ogni caso. Invece tu dici, se mi garantisse, se potessi fare quello che faccio adesso in piena libertà, lavorerei pure per Mediaset. Ma parlando di esperienza, l'esperienza dice che eventualmente la questione è al rovescio. Cioè? È Berlusconi che non mi fa lavorare, non mi farebbe lavorare, ma rientra nelle sue prerogative, diciamo, legittime non so quanto, visto che appunto questo annoso conflitto di interessi continua ad asfissiarci, ma nelle sue, diciamo, pseudo legittime, se facesse solo l'editore, prerogative di editore. Oh, ha vista la Sant'Andrea come si pia le difese, c'ha una bocca come una pagnotta di pane casareccio, quello del Genzano. C'è da sottolineare, Parenzo, che questo capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato oggi ha detto che loro sarebbero disposti anche a votare una richiesta di arresto nei confronti di Berlusconi. Vabbè. E ha detto anche che Berlusconi è incandidabile, secondo loro, per la legge sulle concessioni vecchia pubbliche. Storia. Una vecchia storia rispolverata da qualche settimana da un gruppo di intellettuali e dunque da Micromega. Ma la questione è semplice: su questa vicenda qui ci sono state fior di sentenze e poi la commissione della Camera preposta a varare chi è. Vabbè, comunque ha fatto professione di anti-berlusconismo, questo ti dico, non è che adesso voglio approfondire questa questione. No, ma solo per spiegare che su questa, ma non dobbiamo spiegare nulla, non dobbiamo spiegare nulla, non ti preoccupare, non c'è bisogno. Non voglio discutere con te. Che Berlusconi sia candidabile o non candidabile mi sembra francamente una questione superata, vecchia, insomma. Non è che si può riproporre vent'anni dopo la questione, appunto, no? Cioè, dicendo, non è che si può alzare qualcuno col dito oggi e dire no, non era candidabile, quando ormai, cioè, sarà l'ultima legislatura, credo, cioè sarà l'ultima zampata. Ha visto oggi quelle persone, Paolo? Hai visto davanti al Tribunale di Milano? Per un momento ho avuto un brivido. Addirittura, perché? Sì, ho detto hanno beccati tutti, c'è stata una retata. Invece no, c'erano andati volontariamente, c'era tutto il PDL meno uno. Potevano, quello che c'ha la congiuntivite. Potevano approfittare, dici era tu, detto. No? Potevano approfittare per fare una grande retata. Però io credevo che l'avessero fatta quando ho visto la scena. Dico, ecco, finalmente. Ma però, no, però ma è la prima, infatti, non scusami, pure sta, pure sta il Palazzo di Giustizia, pure di questi deputati. Pure sta bocca, sì, no, molti lo sapevano perché sono andati come imputati, come indagati, no, eccetera. No, non si sono mai presentati. Ah, alcuni sì. Scusa un attimo, ma adesso. Ma forse sono andati tutti insieme perché pensavano a una riduzione della pena come sconto comitiva? può essere. Scusa un attimo, ma il fatto che però la Boccassini con sta visita medica fiscale insiste un po' troppo, dai, è una cosa personale. Che ti frega, ma di mandare una cosa personale? Ora io figurati. Che ti frega di mandare la visita medica a Berlusconi? Scusa, ma se uno fa l'impiegato o l'operaio sta a casa malato, la visita fiscale gli arriva appunto molto rapidamente. Sì. Perché non dovrebbe arrivare a Berlusconi? Anche perché hai ragione. Però è un po' noioso parlare di questa storia, te lo dico. Io credo che sia davvero una roba da Guinness dei primati, il primo caso di ricovero per congiuntivite, che poi credo che si sia trasformata in uveite. Che non uveite, so bene. Sì, uveite, sì, uveite. Uveite, sì, non so. Ci sono bene molti malati di uveite, dicono proprio. Che non sia contagiosa, ma visto che tutto il PDL è andato al tribunale, si vede che non è contagiosa, loro stavano benissimo, no? Sì, alcuni sono andati anche a visitarlo. Senti, ma perché proprio non sopporti Grillo, tu? T'ho sentito in varie occasioni, perché non lo sopporti? Non è vero che io non sopporto. Ma hai detto Grillo. Piuttosto io, che votarlo, allora, ti faresti tagliare le palle? Certamente, lo ribadisco. Cioè le palle ti faresti tagliare? Ho rubato la battuta da un servizio di servizio pubblico, scusa la ripetizione, sì, che faceva vedere un vecchio comunista che alla domanda voteresti Grillo rispondeva manco se mi tagliano le palle. L'ho trovata molto efficace e molto sintetica. E anche tu faresti così? Sì, anch'io, prima di votare Grillo mi taglierei le palle. Ma addirittura, come mai? Proprio non c'è una cosa... Tanto, come ho già detto, perché vista l'età che ho, non è che ne faccio un uso così, insomma... Vabbè, adesso non esagerare, sei giovane. No, ancora. Ma poi io, sai, non ho protesi, additivi chimici... Qualche trombatina la farei pure tu ogni tanto. Quando ci penso con nostalgia. Ma a parte quello, dico che mi farei tagliare le palle per il motivo semplicissimo che io non sopporto più i salvatori della patria, proprio... questi illuminati che siano unti dal Signore o unti da Gaia e da Casaleggio, io non li... Ah, lui è un unto da Gaia e da Casaleggio, eh? Oddio, un po' un tarello da è un po' un tarello, Quello era unto dal Signore, quello è unto da Casaleggio. Ma come, che proprio a me proprio mi fa cascare le palle, visto che appunto me le devo tagliare, perché insomma sembra che stia... Sembra che voglia prendere il 100%. Appunto, meno uno che sarò io, ecco. Ma... Pure io ho votato Grillo, te rendi conto o no? No, io questo lo posso capire. Ma perché c'è in me una volontà di scardinare tutto, di una volontà quasi di anarcoide, capito? Ecco, bravo, hai detto il termine giusto, anarcoide, scardinare, ma come si può scardinare con due signori che pretendono una obbedienza e un'obbedienza zelante come quella che pretendono questi due signori proprietari di questo movimento, proprietari nel senso letterale, il marchio. Beh, perché secondo te i deputati non conteranno un cazzo? Guarda, io l'unica cosa che ho visto di positivo in questa vicenda è che dico, ma arriva in Parlamento una pletora di persone nuove, giovani o non giovani, io non sono di questi che hanno questa fissazione, forse appunto per l'età, che l'essere giovane in sé è un merito. Certo. Ci sono tantissimi giovani coglioni, pieno. Ci mancherebbe altro. C'è stata una bella selezione fra questi giovani, mi sembrano, io spero tanto di sbagliarmi, ma lo spero, questo lo dico sinceramente, votati all'obbedienza, non parlano con i giornalisti perché hanno detto di non parlare con i giornalisti, nessuno fa una dichiarazione perché dice parlano solo i capigruppo e sarebbe meglio forse che non parlassero, perché? Visto quello che dicono. Ah, la cosa sul fascismo, sì, tra l'altro. Sì. Ma anche l'articolo 18 ho letto, hai visto? L'articolo 18, l'articolo 67, quello però è stato il capo. Quello è il capo, parlava, sì. Ma è un certo pericoloso, io credo che la disobbedienza, disobbedienza civile, la disobbedienza civica, sia un valore, no? Quando c'è una situazione o ci sono delle norme o dei regolamenti che non è giusto rispettare, non si rispettano. Quella è la disobbedienza critica che scardina rivoluzionaria. Ma io dai deputati grillini, e non solo dai deputati, sento dire soltanto queste sono le regole e noi rispettiamo le regole. Ma quali regole dici tu? Le regole del movimento. Ah, no? Hai visto certo, che certo. È il leitmotiv dei... Ma cioè sembrano un po' degli automi, dei robot questi qua? Un po' sì, Ma ti ripeto, spero di essere smentito dai fatti, ma lo spero molto. Per adesso non mi sento molto smentito. Ma tu dunque non sei uno di quelli per l'accordo PD Grillo, insomma, non sei tra quelli che dicono, vabbè, c'è che sono questi appelli degli intellettuali, a me fanno ridere gli appelli degli intellettuali. Se c'è una cosa di cui Grillo se ne fotte sono gli intellettuali vicini al Partito Democratico, anzi non li può vedere, immagino. Sì, oddio, guarda, ti devo deludere perché questo appello l'ho firmato anch'io. Non gli è stata data grande enfasi alla mia firma, come è giusto che sia, ma ti assicuro che l'ho firmata, non gliel'ho data io l'enfasi, ci mancherebbe altro. No, ma nel senso che Grillo... L'ha firmata anche Don Gallo, insomma, persone che stimo molto. Io l'ho firmato per un motivo molto semplice, che penso che quando un movimento, un partito, lo chiamasse come cazzo... arriva a rappresentare quasi il 30% dell'elettorato, delle responsabilità ce l'ha, insomma, no? E sarebbe bene che se le prendesse. Non dico che deve fare l'accordo con il PD. Però? Dico che può almeno andare a vedere se ci sono o se non ci sono. Ma quello condizioni. È nato per fare un'altra cosa. Hai visto che ha detto durante la campagna elettorale, anche prima del PD, del PDL, che sono uguali, che i partiti non devono esistere più, che ci vuole internet, che ma è un'altra... Sai, quando i partiti non esistono più... Io non, insomma, la storia ci ha insegnato qualche cosina su chi ma è pericoloso, ha abolito i partiti. Ma tu lo ritieni pericoloso uno come Grillo, due come Grillo e Casaleggio? Pericolosi? Uno che dice voglio prendere il 100%, è una minaccia? È un po' Prima di essere una minaccia è una grandissima cazzata. Una grossa cazzata. Diciamo, no? Non si può prendere il 100%. Sono d'accordo con te. Le cose come stanno. Io poi sono fra quelli che rivendica il diritto alla cazzata. Però non mi candido a rappresentare il 30% dell'elettorato. Ma nemmeno il 100%, immagino. No, rappresento solo la cazzata che dico io. Però c'è stata una fase in cui invece Grillo veniva un po' coccolato e, come dire... Beh, anche da Santoro, non è che tu rispondi per Santoro, per carità. Però... Io non rispondo per Santoro, io credo che quella fase lì comunque... credo ti riferisca a anno zero, era quando Grillo era totalmente oscurato, si vede che poi la rete non serve così tanto a dar visibilità. Ma cosa è successo? Quindi era giusto darle notizie. Ma cosa è successo poi tra Santoro e Grillo? Una trasmissione giornalistica, mi pare ovvio. Sì, ma per quanto riguarda me, devo dire che le critiche a Grillo, le mie critiche tramite la vignetta, risalgono a tempi non sospetti. Ma che è successo poi tra Santoro e Grillo? C'è stato un episodio, un qualcosa che ha fatto scattare, insomma, adesso non è che corre, per carità, poi Santoro anche nelle ultime trasmissioni dopo le elezioni ha detto che l'unica grande novità politica, poi l'elemento giornalistico c'è sempre, però è un fatto che sia c'è però una tra i due è scattata qualche cosa per quanto sappia io, ti ripeto, non c'è stato nulla di personale, nulla di particolare. Ma Grillo incappucciato ti è piaciuto? Delle posizioni come quelle che Grillo assume, anche rispetto all'informazione, per noi che nel bene e nel male... Chiudere la 7 addirittura una volta detto. questo discorso sulla libertà, sul pluralismo dell'informazione, l'abbiamo sempre difeso, non ci troviamo molto d'accordo sul punto sul chiudere la 7, chiudere questo. Ma perché si fa intervistare sempre dei giornalisti stranieri? Lui dice perché sono più corretti, riportano i titoli bene. Ha ragione su questo o ha torto? Ma senti, mi pare un'altra cazzata. Allora, che ci sia un grosso, non piccolo, problema di servilismo della stampa italiana non è certo Grillo a scoprirlo, no? No, vabbè, certo, certo. Non ci vuole molto, insomma, basta guardarsi intorno, poi specialmente per questi ultimi 20 anni. Detto questo, non credo che parlare soltanto alla stampa straniera giovi a far sì che questo servilismo venga superato, sconfitto, o perlomeno parecchio ridimensionato. Non giova a dire che tutta l'informazione è una merda, che tutti i giornalisti sono stronzi e venduti, ma neanche tutti i politici sono stronzi e venduti. Ma lui incappucciato ti è piaciuto? Credo sospettabile di simpatie per la casta, sì, no? Sì, sì. Ma non ho mai pensato che tutti i politici tu curre siano dei venduti stronzi. Ma tu che hai votato? Da prendere a calcio in culo e a bastonare. Io non ho problemi a dire che cosa ho votato. Io ho votato in groia, voto sempre per i perdenti. Sì, a Camera e Senato votato in... Però in questo paese dove tutti saltano sul carro del vincitore, perché sì, tu parlavi di intellettuali, ma io ho sentito... diciamo intellettuali, uomini dello spettacolo, uomini, donne, sì, dicevo così. Ultimamente ce ne è saltati parecchio sul carro, parecchi sul carro di Grillo, no? Anch'io, anche forse. Elkan, l'Afo Elkan. Ma no, ma guarda che significa votare. Guarda, io preferisco sempre, ma sarà una mia, sì, un mio vizio, saltare sul carro del perdente. Però scusami, Mauro, non è che... C'è anche più posto, guarda che si sta comodi, è benissimo. Però votare... Il carro del perdente è largo, il carro del vincitore è asfissiante, affollatissimo. C'è troppa gente. C'è un sacco di gente, sgomitano. Però è, guarda, che votare per qualcuno mica significa salire sul carro, semplicemente ognuno vota per mille motivi. Chissà, l'Apo Elkan, certamente l'Apo Elkan ha votato Grillo per motivi diversissimi da quelli, che ne so, di uno della Val di Susa, no? Questo non c'è dubbio. Cioè, ma vedi, questo è però per me è tornando al ragionamento del 100%. Quando tu punti al 100%, imbarchi tutti. Vuol dire che non hai un cazzo da dire, perché la politica, quella con la P maiuscola, chiamiamola così, è anche quello strumento che rappresenta degli interessi di intere fasce, chiamiamole classi. È come la DC. Io non credo che gli interessi dei disoccupati, degli esodati, sì, degli operai siano gli stessi interessi dei padroni o dei manager della sinistra. Però è come la DC, no? Credo che non siano conciliabili addirittura. Credo che sia giusto che una politica, e in questo caso io ribadisco, una politica, sì, di sinistra, che in Italia non c'è da anni, scelga chi rappresentare, a chi dare voce, quali istanze rendere incisive, non tutte, perché tutte non possono convivere. Però da questo punto di vista, Parenzo, mi sembra che il paragone più adatto sia quello della Democrazia Cristiana, cioè sembra, con forme diverse, che Grillo sia talmente trasversale da assomigliare quasi alla Democrazia Cristiana. Ma lui incappucciato proprio non ti è piaciuto, eh? Lui, Grillo incappucciato. Ripeto, io rivendico, è una frase, come sai, di Tognazzi, il diritto alla cazzata. Però questo diritto alla cazzata non lo voglio regalare alla politica. Ecco, Grillo, che gli piaccia o che non gli piaccia, che si è diventato un leader politico. È diventato di fatto un leader politico. Tra l'altro si comporta anche da tale, no? Mi sembra. Sì, sì, assolutamente. Diktat di qua, diktat di là. Ma ti sembra una setta? Una roba tipo Scientology? Parenzo, gli piace questa cosa, Scientology. Beh, sì. 5 Stelle. Sì, devo dire che mi sembra una setta. Mi sembra una setta perché una qualsiasi critica, blanda, dura, forte o leggera, che arrivi al capo, specialmente, sì, al capo, c'è una reazione da fuoco di fila fanatico. Incredibile, no? Sì, è, sì, incredibile, perché questo capo è uno che viene dal mondo della comicità. Sì, sì, dove? Anche della satira. Dove lo sberleffo, certo. Dove, voglio dire, no, ci mancherebbe altro. È come se io mi offendessi se qualcuno mi prende per il culo. Beh, ogni tanto ti offendi pure tu, non è che non ti offendi. No, quando mai? Io non mi sono mai offeso. Ci mancherebbe altro. A me piace essere preso per il culo. Ogni tanto lo faccio anche da solo. Perché... Ciao, Mauro, a presto. Ciao, ciao. A voi, ciao. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Eccoci qui, 800 24 00 24. Beh, i Marò sono rimasti in Italia, caro Parenzo, Beh, va bene. Ma che fai? Sei morto? Che c'hai? Stiamo facendo una trasmissione, eh? No, non sono morto, sono qui, sono in bagno. Ah, sei in bagno, però ti sento male, distante, lontano, vabbè. No, come? Ma prima anche? Ma ci avrai l'auricolare, cose del genere. No, Emanuele... ho il cordless, il telefono portatile. Ecco, appunto, Emanuele della provincia di Arezzo, riprendi il telefono normale, vai, Emanuele della provincia di Arezzo. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori anche. Sì. Senta, volevo solo, siccome avevo, considero poco esauriente la risposta che le ha dato Vauro, fra l'altro mi dispiace che sia andato via, mi la considero poco esauriente rispetto alla domanda che le aveva fatto lei quando le ha chiesto come mai l'accanimento contro Grillo. Vorrei provare brevemente a spiegarla. Ma no, accanimento, ha detto perché ce l'ha tanto con Grillo e poi ha spiegato perché odia i partiti personali come quelli di Berlusconi e quelli che comandano come Grillo e Casaleggio, la setta eccetera eccetera. Mi sembra che abbia spiegato dal suo punto di vista, no? Guardi, voglio provare a darle un'altra versione. Ecco, un'altra versione qual è? Sì, dunque, bisogna conoscere un po' la realtà toscana. Lei deve capire che nella maggior parte degli elettori e in generale dei pensatori o dei simpatizzanti politici toscani c'è una questione tradizionale, qualcosa che probabilmente è scritto nel DNA, che è un retaggio sicuramente della sottocultura comunista. Che, ma non ho capito, scusi, di che sta parlando lei? Sì, no, ci arrivo. No, ci arrivi però. Le sto dicendo che porta per forza ad avere un bersaglio da odiare, perché l'odio diventa l'unico collante per delle persone talmente diverse e talmente in contraddizione fra di loro, per cui c'è necessità di un avversario, ma necessità fisica. Cioè, non ho capito, Bauro avrebbe bisogno, secondo me, ha bisogno secondo di un me... avversario? Non mi sembra che gli manchino gli avversari, volendo. No, però con la dipartita politica imminente, speriamo, di Berlusconi, probabilmente hanno bisogno di qualcuno per sostituirlo, e la miglior calamita per l'odio è l'invidia. Lei dovrebbe conoscere la gente da questa parte, sicuramente ne conoscerà qualcuno. Vabbè, l'invidia e l'odio, l'invidia e l'odio non è dietro. Sì, ma non è solamente una questione toscana. Su, dai, Rinaldo da Como, no, buonasera. Qua. Rinaldo da Como, sì, buonasera. Buonasera, buonasera Cruciani. Una breve premessa, il signor Mauro prima ha sostenuto che la visita fiscale per un dipendente è una cosa più che normale. Io non so quel signore dove viva, sicuramente non vive in Italia, perché sono decenni che le visite fiscali vengono additate come imprese hitleriane o staliniane, che dir si voglia, per cui la visita fiscale non esiste più in Italia. Cioè, ma per che adesso, dice? No, non esiste proprio. Ma cioè, dove l'ha visto? Beh, esistono, ogni tanto la faranno qualche visita fiscale. Come ogni tanto? No, è evidente che c'è una fantasia speciale, ma non la visita fiscale. Non ho capito. No, guardi Parenzo, mi perdoni. Dato che sostanzialmente non ho chiamato per questo, evito di continuare per non perdere tempo. No, ma guardi, amico mio, io ho lavorato in molte aziende private e spesso mi è capitato, da quando ero dipendente, ora non lo sono più, non di ricevere io, ma di persone e colleghi che hanno ricevuto la visita fiscale. Ma è normale, ma di che stiamo parlando? Non è mica la Santa Inquisizione, è una verifica che lo Stato fa. Fine. Dov'è il problema? Dov'è il dramma? Ecco, comunque, senta, non ho telefonato per questo. Non ho e telefonato, allora, che chiamato... dice? Perché perde tempo? Altra chiamata. Ma lei che mi fa perdere tempo come lei, una Mara Marionchi con due coglioni. Lei ha Cruciani, l'ha fatta entrare da anni in questa trasmissione, rovinando completamente la pulizia di questa trasmissione. Sì. E infatti lei ha telefonato. E questo glielo dico con estrema chiarezza, se in italiano... Vabbè, ma lei sta dicendo delle stupidaggini. E infatti lei ha telefonato. No, è la verità. È la verità. E infatti asino ha telefonato. Comunque, benissimo, lei è un imbecille. Dunque siamo pari. E lei è un asino. Benissimo, lei è un ciuco. Così siamo pari. E lei è sempre lo stesso asino. E lei è sempre lo stesso ciuco da anni che sta imperversando una bellissima trasmissione. E lei è un asino che perde tempo, telefona, allora, dice sciocchezze per squipedali e poi si arrabbia pure. Ho avuto la sfortuna di guardare l'Arena di Giletti. Io ho visto quel faccione di Toscani dire che Berlusconi sta diventando cieco, sghignazzando come un pazzo. Nulla è in confronto al cadavere caldo di quell'imbecille, di quel ciuco che lei ha in trasmissione. Questo mi perdoni Cruciani, mi perdoni. Questa lei, sì. dice che si è autorizzati a utilizzare per fare della satira. Questa non è satira, Cruciani, questa è spazzatura. Ma cosa? Di cosa è sta parlando? Ma cosa, Cruciani, è spazzatura? Fate passare dei messaggi ai ragazzi e ai nostri figli che fanno semplicemente schifo, Cruciani. Ma cosa? Schifo, quale? Schifo. Manca il soggetto, il verbo, tutto. Ma chi? No, ma chi? Lei il soggetto e il verbo se lo vado a studiare sul vocabolario, imbecille. Ma manca tutto nelle sue frasi, soggetto, verbo, complemento, oggetto. Ma rovina la trasmissione di Cruciani, che è un capolavoro, la sta rovinando da anni. Ma veramente e non lei, è così? E quando lei parla di cadaveri caldi, si guarda allo specchio, si schiaffeggi, imbecille. Ma cosa perché fa? Questa è spazzatura. Ma cosa? Imbecille. Cos'è spazzatura? Ardino. No, anzi, il cadavere caldo, ma uno parla di un cadavere caldo, una persona che si è suicidata e di una persona che diventa cieco senza neanche sapere cos'è, Silvio Berlusconi, al di fuori di ogni logica politica. Non me ne frega niente, la politica lo guardi che non abbiamo ironizzato anche poco sulla uveite di Berlusconi o sulla congiuntivite di Berlusconi. Ma lei non sa cosa sia, lei non sa, noi, né io né lei sappiamo esattamente le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. So giorni che si sta solo parlando di quello, insultandolo liberamente. Ma non è vero. Ma è la verità sacrosanta, Cruciani, ma questo non me ne frega niente. Guardi che non sono schierato, non me ne frega proprio niente. Io parlo da padre, da 63enne. Ma quale padre? È una sporcizia. Il cadavere caldo dopo un suicidio del genere è una sporcizia. Non è satira. Ma perché lei non capisce? L'ho criticato io. Ho criticato, ma perché lei la mattina non si lava le orecchie? Guardi che cosa succede dopo, perché si accumula il cerume giallo. La doccia, per guardi, con quello che lei dice, con tutti gli insulti e le parolacce che usa, lei si deve fare la doccia, non lavare le orecchie. Ma lei quante volte la doccia la mattina, mezzogiorno e la sera? E se lo dica, quanto tempo non si lava le orecchie? Lo dica la radio, lo dica, ma quanto tempo non si stura le orecchie? Se c'è dei chili di cerume giallo nelle orecchie, ce l'ha. Lasci parlare. Da quanto tempo non se le lava? Da quando tempo non si lava le orecchie? Ha dei chili di cerume, dentro quelle orecchie. Lei non ascolta. Ma sì, ma come no? Guardi, lei usi il cotton fioc la mattina. Ascolto tutte le sere la trasmissione di Cruciani perché sono affezionatissimo a questa trasmissione. Oh. Non a lei. Un attimo perché solo, un attimo. Proprio, guardi, lei mi dà solo fastidio. E meno male. Pronto? Signora Gervasi? Chi parla? Sì, buonasera. Sono Cruciani, il Sole 24 Ore, Radio 24. Come sta? La disturbo? Sono in viaggio, mi dica. No, perché stamattina ero lì al tribunale e ci siamo incrociati mentre lei faceva, diceva le sue cose lì. Ma sta tornando, sì? Sta tornando dal tribunale in Umbria, a casa? Sì, sì, sto tornando a Perugia. Ma com'è il viaggio, lungo? Sono 5 ore di macchina. Ma chi gliel'ha fatto fare, signora, andare davanti, fino davanti al tribunale? Senti, adesso sto viaggiando e non posso parlare con il telefonino. No, ma è. Se l'ho fatto per i buoni motivi, no? Scusi, no, no, certo. Non mi dica dirlo a lei che me l'ha fatto fare. No, ma è una domanda. Ho fatto fare il bene che voglio all'Italia, ecco. Ma la Boccassini, se lei la dovesse incontrare, cosa direbbe la signora? Io sono in viaggio, sono sulla Cesena qua. No, assolutamente. Camion, ma solo, ecco, solo una. Arrivederla, ci vediamo. No, signora, aspetti un attimo, signora. Aspetti, sono in viaggio, sto guidando. No, metta l'auricolare un secondo, le voglio chiedere un paio di cose. No, non posso, adesso no, non posso. No, io le volevo chiedere una cosa. Domani, va bene? Se lei incrocia la bocca, sì. Va bene, grazie. Buonasera, buonanotte. Buonanotte. Zanzara! Ma non è che uno risponde col telefono così, no? Ma certo, fermatela subito, se c'era la stradale lì, per cortesia, bloccate la signora. Signor Rinaldo? Se n'è andato. Lascia te, un asino, che lo chiami ancora a fare l'asino? È un asino. Loredana da Milano, orecchie. Buonasera, Loredana. Allora, ragazzi, guardate che l'uveite è una cosa seria, Può prendere la parte dell'iride, può prendere il corpo ciliare. Ma sì, ma noi lo sappiamo, ma infatti non abbiamo fatto. No, ma può essere causata dalla spirochetta pallida. Da che cosa? Spirochetta pallida. Sifilide. Oppure dal bacillo di Koch, tubercolosi. Beh, adesso, oppure scusi, da malattie sistemiche, e oppure anche da qualcos'altro, se Parenzo in bagno rischia. Cioè, rischia. Ho capito, però Loredana, lei la sta tirando a Berlusconi, al signor Berlusconi. No, ho capito, signora. Ascolta, no, Parenzo in bagno rischia perché? Perché come quel tipo che si presenta dall'oculista con lo stesso problema, occhi arrossati. Ma io mi lavo le mani? Sì, senz'altro. Comunque il medico prescrive diverse cose, ma la cosa va avanti. Alla fine, all'ultima visita, il personaggio si spiega meglio e dice: sa, dottore, queste cose mi succedono quando sono stitico e devo spingere troppo e mi si sballa anche il sistema pressorio. Capito? E dunque? Quindi è molto opportuno questo, questo problema di quel povero uomo, povero Berlucari. E poi c'è un'altra cosa. Sì. Quando si hanno le rughe intorno agli occhi, ci si possono mettere i cosmetici, ma le rughe sono dei piccoli canali che confluiscono dentro l'occhio e vi ci portano tutto quello che c'è in giro. Con quello che si mette lui addosso, ci credo che gli venga al minimo l'infiammazione degli occhi. Ma è una dermatologa lei? Eh? Lei di che mestiere fa, signora? Ma io diciamo, beh, io mi occupo di amministrazione, però sono un po' curiosa e vado a sentire, a vedere un pochino le cose. Io vi adoro, Cruciani, l'ho sognata. L'ho sognata perché, insomma, io ascolto la vostra trasmissione in replica da mezzanotte in avanti. Sì. Con la cuffia in radio. E alle volte scoppio in risate clamorose. I vicini mi chiedono, ma che succede in casa tua che da mezzanotte in avanti... Poi non hanno tutti i torti vicini. No, dico, lei tecnicamente va a letto con Cruciani, indirettamente anche con me, ma insomma va, viene sì, a letto vado con a noi letto, la sera. Vado a letto praticamente con la radio e la mia cuffia. Bene. Perché alle volte insomma mi divertite troppo, mi rilassate. Però ma non fa mai l'amore a quell'ora lei, no? Ma perché devi dire queste cose? No, dico a quell'ora, anziché ascoltare Cruciani, me, sì, eccetera, e quell'asino poveretto che ha chiamato, quel povero asino di prima. Perché Rinaldo, il signor Rinaldo. Ma voi fate bene, denudate la persona fino ad arrivare all'essenza dell'anima e farli scoppiare. Scusi Loredana, ma lei non fa mai all'amore a quell'ora, a mezzanotte? Ah, vedi, appunto. E lì c'è stata una cosa. Allora, io mi sono addormentata con voi nelle orecchie. Sì. E quella notte, qualche notte fa, ho sognato Cruciani. Mucchio, ha sognato? Ho sognato Cruciani. No, non mi dire. L'ho vista e in piazza, in mezzo a tanta gente, per una manifestazione. Io ero presente come curiosa del fatto. E lei, appunto, nel suo lavoro di giornalista. E allora? Poi è successo che mi sono sentita un po' pressata. Sì. E sì, ci siamo, non lo so, ci siamo scambiati delle coccole dolcissime. E io un po' dopo la mattina rimbambita dico, ma sì, io non ho mai pensato a Cruciani in questi termini. Anche perché quando la sentivo le prime volte, prima di vederla in televisione, la immaginavo altezza medio-bassa, sui 50-55, con una montatura di occhialoni, una piazza tipo Bersani, però i capelli un grigio biondiccio. E invece no, eh? E invece no. Per chi se lo fosse perso, cari amici della Zanzara, caro Parenzo, dai il solito avvertimento, anche se è tardi, sono le 20:35, ma ci potrebbe essere qualche famiglia, qualche persona, qualche donna, qualche uomo in compagnia del proprio bambino, del proprio infante, del proprio minorenne, magari in macchina, magari a casa, magari nel tinello della cucina, fermo lì ad ascoltare insieme alla famiglia. Bisogna dare un avvertimento. Beh sì, a questo proposito, se avete dei bambini in giro in cucina, beh, la soluzione è soltanto una: aprite il fornelli del gas con la fiamma molto molto molto molto alta. No, perché? Mettete dell'acqua, sì, mettete dell'acqua a bollire come per fare la pasta, non occorre buttarci il sale. Appena bolle, il vostro piccolo bambino di 3 anni che appena ha imparato a camminare, lasciatelo scorazzare libero per la cucina. I bambini hanno bisogno di correre. E niente, vicino al fornello con l'acqua bollente calda, voi intanto andate nell'altra sala, state lavando tutto volume e via, Zanzara. Vittorio Sgarbi e la Boccassini. Siccome qui il caso è evidente che c'è circonvenzione di attentato e che la vittima è Berlusconi, della povera e disperata ragazzina, la quale non si sente affatto vittima di un cazzo, il processo è un processo assolutamente infondato. Adesso viene il meglio. C'è un giurista che si chiama Rubi Rubacuori, la quale dice, ma come mai di quelli che sono venuti a letto con me pagandomi perseguono solo Berlusconi? Se l'azione è obbligatoria e non è motivata da una causa fatta da lei o dai genitori, perché gli altri 200 che l'hanno trapanata a pagamento, essendo minorenne, non vengono processati? Su Pasolini. Pasolini faceva pompini agli studenti della sua scuola che avevano 15 anni, non è stato perseguito. Pasolini a Casarda. Pasolini. E poi dice tutte le ragazze, sentite, sentite. Tutte le ragazze scoprono prima dei 18 anni. Fai una statistica telefonica, quello qui è uno scandalo. No, è una legge fatta dalla Prestigiacomo, è soltanto per la prostituzione, perché la scopata è libera. Tu puoi scopare con una ragazza dai 14 anni in su purché non la paghi. E non la paghi per l'atto, ma se le vuoi regalare un motorino, te lo puoi regalare, sono cazzi vostri, no? Poi ovviamente se la prende con tutti, con l'universo mondo, eh. Grillo, peggio del fascismo, senti. Grillo, non è dittatura, ti manda a calci il culo della gente che non può parlare e che non hai eletto, è peggio del fascismo, Grillo. È proprio la negazione della democrazia. Un uomo stupido, senza un'idea in testa, che inventa un partito in cui lui non c'è. Ma che roba è? Tu hai votato lui e mandano la Lombardia a fare il presidente della Camera. Col cazzo! Questa è assoluta mancanza di democrazia, peggio del fascismo. Se ti lasci che piano si avvicina, avvicina, ti sembrerà una festa un poco sadica, sadica, ma nello zanzaro a parti piatto forte siamo noi. Ora o parliamo delle cose che ha fatto il fascismo, oppure parliamo del fatto che non c'era la democrazia. Ebbene, non c'è neanche adesso, quando io voto un coglione che non va in Parlamento ma fa il guru. Peggio che il fascismo, questo è Grillo, identico. Ma se la prende anche con il PDL, eh? Sentite su Galan, l'ex ministro della cultura del governo Berlusconi, ha fatto leggere Galan, sentite. Berlusconi ha fatto leggere Galan, però c'è peggio di Galan. Cioè fare leggere Galan è come mettere un maiale al centro di una chiesa, insomma, è una cosa invereconda proprio. Uno schifo umano, non parliamo, tutti così. E alla Brambilla, calci nel... Ha fatto leggere la Santelli, ha fatto leggere la Brambilla. La Brambilla in Emilia Romagna, io avrei dovuto votare la Brambilla. Calci nel culo, ma quale, come fai? Ti viene in mente di votare la Brambilla in Emilia Romagna? Perché non c'è democrazia, c'è solo dei voti profondamente antidemocratici. Riccardo da Roma, 800 24 00 24. Riccardo, vada. Pronto? Sì, dica. Mamma mia, stasera proprio palle cadute per terra proprio. Parte un'ora prima di parlare, poi una trasmissione dove i comunisti se la suonano e se la cantano da soli, cioè contemporaneamente a un certo punto ci avevamo in onda Vauro, zecca comunista, quell'altra vecchia babbiona rincoglionita che non so chi cavolo è, quella lì, Annarella, sì, Annarella. Mamma mia, quella zecca malefica, ma io vorrei, la signora, guarda, siccome credo sia di Roma, la vorrei incontrare per strada, poi te lo faccio vedere. Poi c'era Parenzo, che è una testa di cazzo, ma a livelli incommensurabili, e Cruciani, mi dispiace dirlo, fino a qualche anno fa l'ascoltavo, ma è diventato un leccaculo dei comunisti, pure lei, una cosa vomitevole. Ma comunque continuate così, perché prima o poi scoppierà una guerra di piazza, perché un paese di merda come questo, dove il capo dell'opposizione viene messo in galera con un pretesto, no, veramente cazzo, non è in galera, e sono 20 anni, perché... mo ci sarà in galera, non ti preoccupare, che mo ci ho messo in galera, lo so persino io. Stanno facendo di senta tutto. Parenzo, perché... Senta Parenzo. Allora, il giochino di Bersani. Senta Parenzo, un secondo. Bersani non gliene fotte un cazzo di Grillo. Senta Parenzo. Tiriamola per le lunghe. Senta Parenzo, un secondo. Perché Berlusconi va in galera. Sì, senta Parenzo. A giugno, luglio. Può darsi pure che sia così, però ascolti Parenzo un attimo. Ma perché? Perché ti droghi? Fatti di metadone, non drogarti. Fatti di metadone. Non ti devi drogare. Ti distruggi. Ma chi è? Ma chi è che parla? Coglione, ma che cazzo parli? Pagliaccio. Stia tranquillo. Stai zitto. Comunista, prendi i soldi dal PD. Stia tranquillo. Stai zitto. Tu prendi i soldi dalla Sette, dal PD. Vabbè, che c'entra? La rete di Telecom Italia Media. E allora qual è il problema? Con i soldi del PD. Poi dite un sacco di cazzate. Le visite fiscali in Italia non funzionano. Le visite fiscali sono la cosa che funziona di meno. Io posso garantire che lavoro in un posto dove ci sono centinaia di dipendenti pubblici, centinaia, tutti malati, nessuno gli mandano la visita fiscale, nessuno, quindi non dite cazzate, questo è vero che non la mandano. Disinformazione, i dipendenti pubblici non fanno un cazzo. Ma via. Ma due ambulanze, ecco, ma sì, potrebbe non per sempre, ma come se non per il culo solo da una parte. Però ma Riccardo, quel coglione di Mauro che ha detto che l'obbedienza, guarda, io voglio aspettare una lancia a favore di Beppe Grillo. Sì. Allora, Mauro, il signor comunista prima, sì, ha detto che lui la disobbedienza, sì, la definisce un valore, sì, e quindi critica questa obbedienza dei grillini, questa obbedienza cieca. Tra l'altro questi manco un giorno sono stati in Parlamento, aspettano di che sono obbedienti, no? Comunque lui lo critica. Sì, allora... E però invece quando disobbediscono i deputati del PDL alle istituzioni e invadono il Tribunale di Milano, no, lì fa l'ironia, ah, dovevano andare tutti in galera, se lo sapevano, erano tutti meno uno, facevano prima andare in galera, ma che cazzo dici? 4 miliardi avete fregato. Chi? A Monte dei Chi? Paschi, ma che c'entra adesso il Monte dei Paschi? 4 miliardi di soldi degli italiani. Ma che c'entra 4 miliardi? Berlusconi non ha mai preso un euro degli italiani, neanche che un euro, è quello che ha pagato più tasse di tutti, di questo stato assassino, 6 miliardi di tasse. Fai parlare però, fai parlare. Ma dove lo trovi il crack? Pagliaccio, pagliaccio, tu devi tacere. Prendi i soldi di Telecom Italia Media e taci. Ma che c'è? Prendi i soldi lì dalla trasmissione cortelese che fa il Pinocchio col microfono in mano, la R Moscia, stai zitto. Ma come la decenza di stare così? Io sono schierato, io ho votato Berlusconi, sono un elettore di centrodestra, sto legittimamente manifestando il mio disappunto perché il leader del mio schieramento rischia di andare in galera e la reputo una cosa ritirata in un paese democratico. Ma non ho paura di dirlo, non ho paura di gridarlo a microfoni, e se arriva qua la vecchia sciattona babbiona, io lo dico pure a lei. Aspetti, capito? Tu devi andare in una comunità di recupero. Invece tu devi andare in una comunità di recupero immediatamente. Prezzolato fazioso, non hai neanche le palle di dire che sei del PD. Cioè lo sei, ma non lo dici, c'hai la foglia di fico, vergognati. Ma tu sei strafatto, non andare in giro così, sei ma strafatto. Ma tu sei un coglione, io sono strafatto, ma tu sei un coglione. Ma sei pericoloso per te e per gli altri. Ti ma che cazzo dici? Ma qua l'unica persona pericolosa sei tu, che c'hai un microfono in mano e dici stronzate di fronte a milioni di persone. Tu disinformi la gente. Coglione, coglione. Ma che ha detto? Che ha detto? Che cosa ha detto? Scusi, no. Gli dici bene? No, io ho detto bene. Scusi Riccardo, scusa Riccardo. Prego, mi dica. Cosa? Almeno con si può parlare. Mi ha deluso molto gli ultimi anni, ma non si può parlare con lei. Ma cosa ha detto di così sbagliato Parenzo? Dai, ma a parte che dice 8 cazzate al secondo, quindi vabbè, però lo devi dire che cosa dice, qual è? La cazzata che dice. Ma una stasera, una cazzata che ha detto stasera, non lo so, cioè. Ma lascialo stare. Ma diciamo, mia, quando ha detto il fatto del tribunale, là, quando la Santanchè parlava, no? A nessuno può pure non essere d'accordo con la Santanchè, per carità, io non è che dico. Ma quando la Santanchè diceva che c'era l'accanimento, subito Parenzo aprì per culo a fare battutine, l'uveite, ma non è vero, ma sono le leggi, vanno rispettate, ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma che vuol dire? Testa di cazzo, ma non lo vedi che è tutto palese, ho la visita fiscale pure Parenzo, io ho lavorato in tante ditte private, sì, posso dire che la visita, ma quali cazzo di ditte private ha lavorato tu? Ma non la mandano a nessuno la visita fiscale. Ma che visita, sei un povero, perdi giorno, perché se tu lavorassi veramente, se sapessi che vuol dire guadagnarti il pane col sudore della fronte di fronte a comunisti di merda che bruciano i soldi pubblici, con le intercettazioni del cazzo, con i processi, con i milioni di euro cazzo di legno a Napoli, lì è ricciolto, cazzo di legno che fa l'inchiesta sulle veline, ma perché continui a fare il perdi giorno in giro? Buttati nel cesso di soldi nostri, soldi. Ma perché nostri? Ti alzi la mattina? Perché sei un perdi giorno, tu ti alzi la mattina e ti ubriachi. Licenziata in America esiste un sistema giudiziario dove innanzitutto i giudici sono elettivi. Prima cosa, eletti. E poi i pubblici ministeri, se non hanno la pistola fumante, la prova provata, non vanno proprio a processo. Parenzo, rispondi. Mamma mia, poveretto, è un bel giorno, si sveglia la mattina. Di finire nel mirino di uno di quelli tipo la Boccassini o Henry John cazzo di legno, ecco, finisci nel mirino di uno di questi che ti prende di mira e ti comincia a cagare il cazzo come hanno fatto con Corona, con Emanuele Filiberto o qualcuno, e improvvisamente domani questo si sveglia e decide che ce l'ha con te, sei finito. Poi mo viene a raccontare la visita fiscale, l'uveite, le minchiate, le mignotte, poi me lo dici. C'è ancora Riccardo da Roma, fermo lì, calmatevi un attimo, anzi non vi calmate, però state fermi un attimo perché c'è da l'avranno sentire. L'avranno ricoverato, poveretto, dai. Riccardo, rispondi subito, rispondi. Dai, che la distruggo, mamma mia, quella babbiona rincoglionita. Ma chi? Quella lì, la vecchia di prima, la vecchia comunista lì, quella che va alle riunioni del PD, chi è? Ah, Narella. Ma sempre comunisti chiamate, non è che chiamate qualcuno del popolo che vota centrodestra, ma se no, c'ha... tutti no, comunisti. Ma se c'ha... Ma che sono tutti comunisti? Ogni però ogni tanto Berlusconi via il 30%, non si sa chi vota. Parezzo, ma infatti ogni tanto chiamiamo qualche stronzo e questo è il tuo momento, questo è il tuo momento. Ma perché vuoi parlare con Narella, poveraccia? Adesso qualche stronzo, fammi... è il momento di Riccardo. È il tuo momento, Riccardo, è il momento dello stronzo. Parla, forza, è il tuo momento. Mamma mia, pagliaccio, taci, c'hai un microfono in mano, per carità. Perfetto. Hai una responsabilità. Hai una responsabilità, vergognati, secondi, vergognati, pagliaccio, vergognati. Sgarbi, la Boccassini va presa a calci nel culo, sentite. L'unico elemento cruciale per cui la Boccassini deve essere cacciata a pedate del culo della magistratura, sì, è nel fatto che per lei la giustizia non è uguale per tutti. E ti assumi la responsabilità di quello che dici. Ho detto con Rubi, a lei non gliene frega niente. A lei a me dispiace che Rubi, il presidente del Consiglio. Ma la Biancofiore sulla nipote di Mubarak la vogliamo sentire o no? Che dici? Faglielo sentire al personaggio lì. Sì, sì. Faglielo sentire al genio della Sì. Al poveretto. Però forse non era il caso di sobbedirli quando chiese in Parlamento di votare che Rubi era la nipote di Mubarak. Lei lo sa se lo era o non lo era? Beh, penso che ormai sia comprovato. Lei pensa ancora che era la nipote di Mubarak, Rubi? Non le rispondo su queste stupidaggini. Annarella? Oh. C'è uno che se la piglia con te, un pianta il culo. Riccardo. No, signora, nel culo lo prende lei e tutta la sua famiglia. No, capito? Che no. Riccardo. Signora, nel culo lo può prendere lei tranquillamente. Riccardo. Tanto da come parla, sarà già abituata. No, Riccardo, signora. Ma è la migliore gente che non conosce. Ma che ne lo sa chi è Berlusconi? Aspetta, Riccardo. Riccardo, stai zitto. Becca morto. Riccardo. Ha capito? Che... No. Guarda che vicino dice, alla morte c'è sei vicino a più te che io, Se tu vogli. Vicino alla morte c'è sei più te, Hai capito? Guarda se tu vogli, se te conosci. Mi sa che stanotte stai buona. No, è a Roma questo Riccardo. Ma non ho capito, Annarella. Ma che nasce, è proprio che lo ridico un'altra volta. Diglielo. Di che venisse domani fuori a lì a Montecitorio, che lo becco io. Hai capito? Ma guarda, io non c'ho bisogno di venire a Montecitorio perché lavoro, non so come te che c'ho cazzo da fa, che mi fotto la pensione, che non ha mai lavorato, da coglione. Tranquillo. Riccardo, togliete Riccardo, togliete Riccardo. Faccio questo con il cocomero. Non ho capito, Annarella, che dici? Che vostro becca morto? E che ne so che vuole? Cioè, e dice che mi sta a Montecitorio. Se la piglia con te perché dice che non. Perché dice che non fai niente dalla mattina alla sera. Che beh, se no. Certo, mi dia sì alle ciao, tempo, se ha lavorato lui 70 anni. Ma c'ha 87 anni, Riccardo. Come? C'ha 87 anni. E beh, che vuol dire? C'è sta gente che sta in pensione quando ce n'aveva 40, che ce n'ha 90, che c'entra? Quando sei no, è l'unica. Ma questa, se parli con lei, è la tipica. Ah, io ho lavorato una vita, come no? Poi va a vedere, sono andati tutti in pensione con i prepensionamenti e il riscatto degli anni universitari. Aspetta. Anzi, no, la signora, non credo che sia il caso. Magari è stato qualche altra cosa, oppure c'ha la reversibilità. Ma tu sei così, ma te sei Roma, ma Riccardo, stai tranquillo. Aspetta. Aspetta, se sta sui coglioni Berlusconi va bene, Riccardo, uccidilo, sputagli addosso, ma non di che ti ha lavorato, che ne hai fatto un cazzo, mamma mia, Annarella, ammazza da te Berlusconi e Grillo. Annarella, scusa un attimo, io voglio capire una cosa, ma perché questo qua ce l'ha così con te, perché dice che sei troppo comunista? No, non sono troppo comunista. Io sono del PD, sono democratico. Però voi che sono sempre stata rossa, con mio padre, con mio nonno e con tutti. E voi che Berlusconi... Non posso diventare una come lui. No. Perché io non mi sono mai venduta. Io l'ho sempre detto che sentimenti ho. E però vuoi che Berlusconi va in galera, però? Mamma magari, ma pure voce al naso, ci vuole pure a fare con Mugnoni. Capito, Riccardo? Basta che mori, o Vanzalera, è la democrazia del cazzo. Se vuoi che la governati bene Berlusconi. Ma guarda, i comunisti, sai com'è la democrazia? Come sì. In Cina, per loro in Cina c'è la democrazia. Parenzo, vuoi rispondere tu, ma Riccardo? Chi è per loro in Cina c'è la democrazia. Perché c'è tutti i delinquenti al governo, Berlusconi. Certo, come no, invece amici tuoi che sono qualcuno di 4 miliardi, quelli sono buoni. Parenzo, faccio adesso per te, Riccardo, sacrifico un telefono, però te lo meriti perché lì devi finire. Ha tirato il cesso per Riccardo, Parenzo. Il carico del cesso, non capisco, cos'è questa, una battuta? Per te. No, è casa tua, dove devi finire te. Ah, certo, vabbè, io almeno ce l'ho una casa, tu manco quello, starai in barbone. Stai sempre alla ghiaccio lì con quel microfono in mano, ma mo dove vai, da Telese? Fammi capire, dove vai? Ma fammi capire un attimo, vai, tu sei frutto di un esperimento biologico per Telecom Italia Media? Tu sei frutto di un esperimento? Dai, vai a fare un'altra marchetta. Ma tu sei frutto di un esperimento al tavolino? Vai a fare un'altra fattorina, 2000 euro. Ma tu sei nato come un esperimento? Di buco. Ma mi sa che mo con Cairo, quello ma sei è amico di Berlusconi, anche se vuole non dirlo, se no lo linciate. Ma quello è amico di Berlusconi, sa come si fanno i soldi, quindi la prima cosa da fare nelle imprese è tagliare le spese. Tagliare ma le tu spese sei frutto di un esperimento, no? Tu sei nato frutto di un esperimento, hanno preso un po' di stronzi qua e là, li hanno mischiati e sei nato te, no? Come va bene, Riccardo, ti devo salutare. Ciao, a presto. Ciao. Annarella. Ma come a presto? Annarella, di qualcosa a Riccardo, veloce. Ma chi è che nasce quel paese proprio? Ciao, un abbraccio. Siamo a Berlusconi e a Grillo. Ciao. Beh, Parenzo, ci sentiamo domani, eh? 18. Ma che battaglia, 18. Ma perché dovessi pagare per essere insultato? 18:30 domani. Ciao. Ma se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua, ti piace così, va bene. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È bella roba, è stata fatta una bella figura. Radio 24. La passione si sente.